dovrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, no, vengo anch'io, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che invece battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no. Ma perché? Perché no? Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. Allora eccoci qua in diretta, comincia la trasmissione Vengo Anch'io, che la prima parte la dedichiamo, diamo questo spazio a un'iniziativa che riteniamo importante, un embrione di vera lotta di classe. Oggi c'è un'iniziativa alla SNIA tra le attività dei lavoratori, dei braccianti agricoli, prevalentemente lavoratori migranti, in gran parte africani, no, finita la stagione della raccolta, insomma la gente, questi lavoratori mano a mano si stanno organizzando, si stanno auto-organizzando. Oggi questa iniziativa che si tiene alla SNIA è per solidarizzare con le due principali, diciamo, iniziative, la questione i braccianti Rosarno, che già nel 2010 hanno fatto sentire la loro rabbia, si sono fatti valere, e i braccianti di Castelnuovo Scrivia, vicino Alessandria, no? In Piemonte. Oggi si incontrano queste due realtà di lavoratori così. Ci abbiamo qui Ibrahim, uno dei lavoratori che viene da Rosarno. Ci abbiamo Niso della SNIA, ex SNIA Viscosa, il centro sociale, che come ciclofficina hanno fatto questa cosa, mo ce la spiega lui, delle biciclette, in modo hanno portato biciclette, stanno attrezzando in modo che i lavoratori possano andare a lavorare liberamente senza il ricatto dei trasportatori, dei caporali. Insomma, a parola a voi. Abbiamo già in collegamento Antonio, che sta scendendo da per venire alla SNIA dal nord, diciamo da Castelnuovo Scrivia, è già in onda, ci senti? Sì, ciao a tutti. Ciao, ecco, cominciamo in questo momento, tu ascoltati, intervieni quando fare. Adesso faccio fare una presentazione a Niso qui della SNIA, poi c'è Ibrahim, poi insomma tu intervieni come puoi, quando vuoi ti inserisci perché sei in onda. Allora, d'accordo. Ok, vai Niso. Allora, ciao a tutti, sono Niso appunto dell'ex SNIA. Ciao a tutti, Senti? Sì, devi parlare più vicino al microfono, senza timore. Ok. Allora, come niente, siamo venuti a presentare anche questo progetto che abbiamo fatto non solo come SNIA ma anche come Ciclofficine Popolari Romane, che insomma, abbiamo coinvolto tutte le realtà delle cicloofficine di Roma, che si chiama appunto Luci su Rosarno, per la raccolta di materiale catarifrangente e, da portare giù a Rosarno, siccome i braccianti utilizzano molto questo mezzo, cioè l'unico mezzo con cui si spostano. E allo stesso tempo abbiamo ipotizzato che poteva servire per sottrarsi alle logiche del caporalato e quindi per muoversi più liberamente rispetto al ricatto del caporale. E niente, questa campagna l'abbiamo portata avanti raccogliendo materiale catarifrangente, proprio perché la sicurezza stradale rappresentava uno dei maggiori problemi per lo spostamento, per la mobilità dei braccianti, siccome insomma non è raro che nella notte qualcuno è stato investito e purtroppo qualcuno ci ha perso anche la vita. Abbiamo pensato che era un modo intelligente per portare il discorso ciclofficina anche a Rosarno, siccome insomma sono perfettamente in grado di aggiustarsi da sera a bicicletta, la sicurezza stradale ci è sembrata un tema importante da affrontare insieme. E quindi abbiamo optato per questo tipo di intervento e parallelamente abbiamo pensato di portare avanti una ciclofficina itinerante per spostarsi da casale in casale e dare un minimo di assistenza tecnica a biciclette insomma, che avevano bisogno di essere aggiustate. Inoltre tra le intenzioni c'era anche quello di avvicinare più persone possibile alla realtà di Africa Labbria, perché attraverso il mercato di SOS Rosarno mette in collegamento braccianti agricoli con i piccoli produttori e organizzano questi mercati insieme ai gas per creare un circuito insomma lavorativo rispettoso nei confronti dei braccianti. E questo ci sembrava insomma appunto la bicicletta poteva essere un veicolo in tutti i sensi per avvicinare anche altri braccianti a questo tipo di realtà, che effettivamente è quella che fa il lavoro più allora pensato, tanto più per utile. Entrare nella materia, la giornata di oggi, questo incontro, questa, cioè, so che c'è in calendario la proiezione anche del filmato delle lotte che si stanno facendo a Castelnuovo Scrivia, cioè come si svolge? Presenta la giornata, così poi sentiamo pure Antonio che sì. Ci racconta l'esperienza di lotta di questi lavoratori di Castelnuovo Scrivia. Allora, mentre qui stiamo parlando, già alla SNIA c'è la vendita di arance proveniente da Rosarno, che i compagni di Rosarno hanno messo a disposizione a sostegno della lotta che stanno intraprendendo a Castelnuovo Scrivia. E successivamente ci sarà un pranzo sociale, sempre a sostegno della rete Campagna in Lotta, che insomma si occupa di tutte queste realtà bracciantili in tutta Italia. E alle 2 faremo la presentazione di Luci su Rosarno, questo progetto fatto come ciclofficine, appunto quello di cui vi parlavo prima. Lo presenteremo a tutte quelle persone che sono vicine al mondo della bicicletta e quindi che frequentano i centri sociali e realtà varie proprio per questi motivi, e quindi sensibilizzarli anche a questa tematica dei braccianti, che la bici non è soltanto un mezzo con cui ludico, diciamo, esattamente, con cui ci andiamo per dimagrire oppure per ecologico, ma effettivamente è un mezzo che di resistenza a tutti gli effetti. E successivamente faremo anche un'asta di biciclette a sostegno del progetto Luci su Rosarno, per continuare a investire in questo senso, nella sicurezza stradale, in tutto quello che può servire per continuare a portare avanti questo progetto. E alle 4 infine ci sarà questo incontro tra il bracciante di Rosarno, Ibrahim, che è venuto qui, e quelli che scendono invece da Castelnuovo Scrivia. E a seguire ci sarà il video presentato dai stessi compagni di Castelnuovo. Allora sentiamo subito. Pronto, Antonio? Sì, pronto. Hai sentito, ti sei inserito? Spiegaci cos'è, qual è la lotta, cosa sta succedendo a Castelnuovo assieme a questa cosa dei migranti. Questa giornata che oggi qui a Roma cerchiamo anche pure attraverso la radio di dargli voce, di dargli identità. Allora, intanto, vabbè, io vi ringrazio di questa grande opportunità che ci avete dato, perché Rosarno non sta solo in Calabria, ma Rosarno sta anche al nord, in Piemonte, in quel profondo nord che sembra civilizzato, industrializzato. È emerso con forza quest'estate il problema dei braccianti agricoli di Castelnuovo, in un'azienda agricola che si chiama Bruno Lazzaro, che è una tenuta circa 1,5 chilometri da Castelnuovo Scrivia, 60 chilometri da Milano, proprio a ridosso dell'autostrada Milano-Genova, ad una quarantina di lavoratori immigrati marocchini mancavano solo le catene. Erano 30 uomini e 10 donne. Gli orari di lavoro erano spaventosi, fino a 13-14 ore al giorno, domeniche e festivi compresi, lavoro nero, irregolare, ricatti ed estorsioni, fino a 2.500 euro versati direttamente al padrone per il rinnovo dei permessi di soggiorno. I salari erano ridotti all'osso, erano di 200-300 euro al mese ed erano soli acconti per 300-350 ore di lavoro mensili. Terribili condizioni lavorative, erano costretti a raccogliere gli ortaggi sotto il soleone estivo, senza acqua, al massimo c'era quello delle canalette per l'irrigazione. Il cibo se lo portavano da casa sulle loro biciclette, senza guanti, senza vestiario, senza nulla. Ma non era da pochi mesi, era da anni che questa situazione andava avanti. Castelnuovo Scrivi e tutta la plaga intorno è una zona orticola molto, molto importante, dove vengono a servirsi le aziende della grande distribuzione commerciale, Bennett, Esselunga, Metro, eccetera. Quindi anni di lavoro degradante, anni di dolore e di rabbia. E venerdì 22 giugno alle 6 del mattino, in un giorno come tanti, senza paga e senza un euro in tasca, questi lavoratori per la prima volta pronunciano la parola sciopero. Immediatamente il padrone chiama i carabinieri, chiama l'ispettorato del lavoro, però probabilmente arrivano persone che sanno il loro lavoro, ecco, e che quindi cominciano a indagare e scoprono una realtà terrificante. I lavoratori vengono cacciati dalla cascina e la rivolta si sposta sulla strada. Per 74 giorni i lavoratori vivono in un presidio fatto di tende e di frasche ai bordi della strada statale. Sono anche giorni di forte tensione, nel senso tra picchetti che facevano gli scioperanti, l'invasione dei campi, perché l'azienda a questo punto si è avvalsa di una cooperativa che si chiama Work Service, una cooperativa di indiani che veniva da Brescia, gente che si alzava alle 4 del mattino per andare a sostituire questi lavoratori nei campi, e quindi invasione dei campi per bloccare i crumiri, blocchi stradali e delle merci, boicottaggio di un'azienda della grande distribuzione che è Bennett, e a seguire denunce, nel senso che i carabinieri erano presenti ogni giorno e ovviamente hanno denunciato chi denunciava queste condizioni di grave sfruttamento e di schiavitù. È una vicenda che ha mobilitato i sindacati, numerose associazioni, forze politiche. La CGIL di Alessandria all'inizio ha sostenuto il presidio degli scioperanti e poi verso la fine l'ha disconosciuto, dimostrando una profonda inadeguatezza rispetto a questa realtà del lavoro migrante, un'incapacità di raccogliere questa forma di lotta, questa radicalità della lotta, questa grande partecipazione dei lavoratori. È stata una cosa molto importante in cui lavoratori hanno dimostrato lavoratori immigrati senza nulla, alcuni, molti di loro senza permesso di soggiorno, adesso l'hanno ottenuto, hanno dimostrato la capacità di mobilitarsi per il lavoro, per i diritti, per la giustizia, per la dignità, non solo loro ma di tutti i lavoratori della zona. E da lì si è aperto un altro libro, ecco, è cominciata un'altra storia. Bene, mi sembra che ci hanno dato a noi, diciamo, italiani, che sì, anche noi sfruttati, marginati, però la dignità che hanno dimostrato questi lavoratori, come la dimostrano i braccianti di Rosarno, come l'hanno dimostrato nel 2010, il vero embrione di lotta di classe. Pertanto ritengo veramente esemplare questa giornata oggi alla SNIA. Invitiamo gli ascoltatori a partecipare a questa iniziativa, a dare manforza, a venirsi a informare, perché la resistenza lavorativa dei lavoratori, dei sfruttati, ancora esiste ed è orgogliosa. Tu, mentre descrivevi quello che succedeva, mi immaginavo i braccianti di inizio Novecento, no? Che si mobilitavano, le stesse cose, e stiamo parlando di una zona a 60 chilometri da Milano, alla capitale del nord, no? Lì non è che è solo un discorso di mafia, come hanno cercato di accollare a Rosarno, che c'è l'andrangheta, che sfrutta, lì è tutto uguale, dove c'è il padrone che vuole sfruttare la cosa. Ci hai dato questa cosa, adesso sentiamo anche le storie, i racconti di Ibrahim. Buongiorno a tutti, sono Ibrahim, africano, vengo da Costa d'Avorio, vivo da quasi 5 anni a Rosarno, ma sono contento oggi per l'iniziativa, ma non sono felice. Non sono felice perché la situazione a Rosarno è molto, molto, molto peggio. Come l'ha detto Antonio, come l'ha detto Antonio, è vero che culpabilizziamo a Rosarno, ma esistono migliaia di Rosarno in Italia, dalla Sicilia fino a Piemonte. Le situazioni di vivere sono le stesse, quasi. A Rosarno, sapendo che da molti anni arrivano gli africani per la raccolta di arance, di mandarini, di clementini e altro, l'autorità non fa niente per permettere a questi ragazzi di vivere in condizioni migliori, nella dignità, insomma. Vivono nelle ghetti, senza acqua, senza elettricità e né servizi. Quasi una situazione disumana per un paese come l'Italia, un paese civile come l'Italia. Sapendo anche che l'Italia è il secondo paese industriale dell'Europa e terzo paese economico dell'Europa. È anche un paese che ci ha avuto milioni di migranti in giro per il mondo. Sì. Dovrebbe aver avuto, specialmente dalla Calabria, molti sono partiti. All'inizio dell'anno e del secolo 90 c'era tanti italiani che sono andati via per cercare, per avere una vita migliore. Oggi la situazione è il contrario. L'Italia deve considerare africani o immigrati come una risorsa umana e una ricchezza economica, perché economica e culturale, perché ci portano pure nuovi pensieri. Sì, possiamo fare il scambio della cultura e con la cultura possiamo far cadere tutte le barriere che esistono, ma mi rendo conto che c'è, tra gli italiani c'è un po' di ignoranza, la parola non è forte. C'è un po' di ignoranza perché o fanno finta di non sapere la storia loro o sono ignoranti. C'hanno la memoria corta. Magari hanno la memoria corta. Volevo dire che oggi è un'occasione nella quale tutti gli italiani che vivono a Roma o altri paesini vicino a Roma devono essere alla SNIA per sapere la realtà. Siamo umani come tutti gli italiani. E mi diceva uno dei miei professori che noi siamo uguali perché siamo bio. Biologicamente siamo fatti della... Quello che può uccidere un africano può uccidere un bianco. Noi siamo le stesse persone, abbiamo le stesse maniere di vivere, di bere, di fare tutto che fa un uomo. Ma io non riesco a capire perché gli immigranti sono trattati così in Italia, soprattutto gli africani. E da parte la Calabria è dimenticata dello Stato. Ho fatto tutto il giro dell'Italia l'anno scorso. Solo in Calabria non abbiamo le bande ciclabili e altre, e le strade non hanno la luce. Perché? È vero che c'è la 'ndrangheta, questa è la realtà. Tutta l'Italia è la mafia. Cosa Nostra, Camorra, tutti. È vero. Ma che fa l'autorità per fare cambiare le mentalità? Quel potere ha? Quelle strategie ha l'autorità per fare capire ai fratelli italiani? Fratelli, la parola è importante per me. Abbiamo creato l'associazione Africalabria tra africani e italiani. Siamo a fianco l'uno dell'altro per portare la lotta dei braccianti africani e italiani davanti, per fare cambiare le situazioni in cui ci troviamo, perché non è una situazione che veramente non fa piacere all'umanità. È una situazione vergognosa per l'umanità. Senti Antonio, c'hai da aggiungere qualcosa a concludere, anche a salutarci? So che stai per strada, che stai arrivando a Roma, così sì. Io dici. Voglio aggiungervi questo: non è tutto oro quello che luccica, giustamente come diceva Ibrahim. Questa lotta è stata una lotta importante, è stata una lotta che ha rotto un quadro che sembrava fermo da anni. Sappiate quello che è avvenuto. Tu hai fatto riferimento al Novecento, ai padroni delle ferriere del Novecento. Sapete che cosa hanno fatto questi padroni? Con un cartello affisso contro un albero nelle vicinanze del presidio hanno licenziato tutti i lavoratori. Li hanno licenziati scrivendo che non vogliono più lavoratori marocchini. Quindi c'è anche un problema anche rispetto al razzismo, rispetto a questa questione. Oggi ne parleremo, perché è una situazione estremamente grave che sta passando sotto silenzio. Noi non ci fermeremo, ecco, abbiamo istituito uno sportello legale, stiamo rilacciando rapporti un po' in tutte le direzioni con i braccianti che sono presenti in tutte le cascine della zona, eccetera. Adesso poi partirà la stagione, quindi noi saremo in campo insieme a loro per difenderli, per fargli avere i loro diritti. Benissimo, ci vediamo oggi pomeriggio alla SNIA, vediamo come è sto filmato, invitiamo pure gli ascoltatori a partecipare in massa e portare un contributo di solidarietà concreta, non solo politica ma anche sostanziale, affinché questi lavoratori possano resistere più a lungo possibile. Perché... Noi abbiamo istituito una cassa di resistenza, pensate che questi lavoratori noi da mesi diamo loro da mangiare. Perché non hanno più niente, non hanno niente neanche da mangiare. Praticamente dal 22 giugno, che al di là di due piccole tranche di una tantum di 250 euro, non hanno percepito più nulla. Quindi portiamo da mangiare, legna da ardere, aiuti in genere. Abbiamo anche istituito una cassa di resistenza per raccogliere un po' di denaro che ogni tanto distribuiamo. Va benissimo, ti ringraziamo e ci vediamo oggi pomeriggio. Adesso Niso, a chiudere questo spazio, speriamo poi la radio sicuramente su queste lotte c'è sempre pronta a dare altri spazi a disposizione. Chiudi la questione perché poi cominciamo lo spazio, diciamo, più diciamo divenga anch'io, che era dedicato, no? Avvertiamo già gli ascoltatori, volevamo parlare di questo cambiamento, di questo fatto sorprendente delle risultati elettorali, avvertendo già da adesso ai lavoratori, agli ascoltatori, che aspettiamo molte telefonate perché non vorremmo parlare solo noi. Vai. Va bene, e allora concludo invitando le persone a venire da questo momento in poi all'ex SNIA e a partecipare a via Prenestina 176, perché non la conosci. 173 al 176 c'è sempre la SNIA, però no, è 75. Vai, vai. E appunto a partecipare, a informarsi a quello che accade, insomma, in queste realtà, perché se dopo parlate di cambiamento, il cambiamento può avvenire attraverso la partecipazione, partendo proprio da questi percorsi dal basso che creano realmente consapevolezza, e poi guardare, insomma, personalmente quello che avviene, e quindi invito tutti a partecipare e inserirsi in questi percorsi. Va bene, grazie. Mettiamo uno stacco musicale adesso un attimino, perché qui siamo impicciati alla regia. أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني مأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي حملت دمي على كفي وما نكست أعلامي وصنت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول Allora riprendiamo nuovamente in diretta la linea. Abbiamo dato questo spazio, abbiamo voluto separare dalla discussione che noi vogliamo affrontare oggi, proprio per dargli più centralità, perché riteniamo che questa cosa è veramente un embrione piccolo, ma di resistenza di classe, in cui i lavoratori dal nord al sud si mettono in contatto e cercano di organizzare più possibile la resistenza. Penso che dobbiamo prendere esempio di questo. Noi ovviamente questa trasmissione la vorremmo fare con tantissime telefonate, contributi dei lavoratori, in particolare chi ha scelto anche di partecipare a questa tornata elettorale. Noi siamo contro le deleghe, pertanto davamo indicazione dell'astensione, in quanto noi non crediamo che dando la delega a qualcuno a rappresentare il conflitto sia sufficiente come contributo. Noi e la partecipazione, si lotta e non si vota, però è avvenuto un fatto particolare. Come, che lettura gli diamo? Oggi tutti si stanno mercamenando con discorsi vecchi, rivecchi, ritriti, sempre i soliti giochi, pensano, gli diamo un posto, insomma, pensano che sia una cosa di queste. Ma in Italia è avvenuto un fatto molto simbolico, cioè, quello che io ci ho percepito è che un muro di gomma che i movimenti in lotta in questi anni hanno cercato di rompere e invece rimbalzava tutto, perché c'era l'unanimità totale. Ogni istanza che veniva dal basso veniva respinta. Questo muro di gomma si è incrinato, si è rotto. Oggi sono tre minoranze, no? In Parlamento. Una è proprio sparita, quella che l'agenda, la famosa agenda, è finita, proprio a quello l'hanno seppellito proprio definitivamente. Penso che neanche da senatore a vita forse ne sentiremo più parlare di questa persona che ha fatto più danno lui. È l'addio di Lucia ai Monti. In pochi mesi e via. Cioè, questo mi sembra chiaro. Hanno massacrato, no? Quella forza politica che parla di lavoro. Però a tutti assicurava, non vi preoccupate che tanto come vinciamo, vinciamo, noi facciamo l'accordo con Monti e mo te la prende il culo. Perché se tu fai la campagna elettorale in questo modo, la gente ha capito e ha fatto una scelta, ha detto che fai, me li vuoi portare alla trappola. L'altro interlocutore che ha la capacità, che nessuno gli vuole disconoscere quella capacità, lui si è fatto un blocco sociale suo di riferimento. Che cos'è il blocco sociale Berlusconi? Quello che ha sempre scelto Berlusconi, i vecchi democristiani, no? Io mi faccio i cazzi miei, rimedio qualcosa, l'imbroglione, l'abusivo, l'evasore fiscale, quello che vive tra ruspo e ruspo, come si dice, no? Cioè dove si può, dove ruspare, si inserisce. Insomma, quello era il riferimento sociale. Berlusconi si è fatta una campagna elettorale parlando a questi direttamente. Gli ha detto, raga, io vi ridò indietro i soldi che vanno levato, in contanti. Cioè, l'appello gliel'ha rivolta a quella gente. Lui sa il blocco sociale suo come motivarlo e l'ha motivato. Invece quell'altro, i Vendola, i Bersani, no? Hanno fatto la narrazione, hanno fatto sparire i problemi veri come questo che avevamo raccontato adesso, no? Uno di Alessandria, un altro di Reggio Calabria, la stessa storia, ma come ha detto Ibrahim ce ne stanno centinaia, migliaia. Di queste cose non hanno mai voluto affrontare, di migliaia di brigate. L'unica cosa che hanno fatto in campagna elettorale, poi faremo il governo con Monte, con Casini, con Fini, Sapia, Dendarculo, è uscito che il muro di gomma si è rotto. E si è rotto su quelle parole d'ordine che i movimenti da anni cercano di aprire una breccia. No ai TAV, no agli inceneritori, no alle discariche, diritto alla scuola, diritto allo studio, al diritto alla salute, tutti i temi che dentro il programma delle 5 Stelle sono inseriti là. Hanno preso queste parole d'ordine, l'hanno messa in bocca a qualcuno che la sa utilizzare, la parola, ha saputo utilizzare i media, ha saputo utilizzare tutto e ha raccolto questa massa, più di 8 milioni di persone, che ha detto andata a fanculo. Cioè, io penso che non è che hanno votato a Grillo con la speranza che poi queste cose si fanno, però hanno votato a Grillo perché questo avrebbe rotto tutti gli schemi. Speriamo che queste cose vanno. Per andare bene queste cose bisogna che si riprenda concretamente la lotta. Cioè adesso ci vogliono che forti movimenti dei precarietà a scuola, forti movimenti dei studenti per il diritto allo studio, per le borse di studio e via dicendo. Mo si devono muovere perché lì trovano un terreno inclinato. Io lo dico così tanto perché parlo a rota libera. E mi piacerebbe, no, che il giorno dell'insediamento si ripetesse quella bellissima giornata del 14 dicembre. No? Dice, circondiamo i palazzi del potere. Adesso sono proprio circondati, perché pure all'interno c'hanno chi le circonda, no? E chiediamo la resa totale subito, immediatamente, perché questo segnale vero è arrivato contro l'Europa. Perché si possono dare tutte le letture e hanno detto: noi non ci vogliamo stare. Il movimento di Barcellona, che è nato a maggio scorso, maggio-giugno dell'anno scorso, Lisbona, mi sbaglio sempre, perché per lì, la penisola iberica per me è tutta una, lì, no? Cioè, non so che c'è sta il popolo basco, il popolo portoghese e via dicendo. Sei uno spagnolista, Ettore. Iberica. Ci sono stati conflitti. Va bene, ma questa è pure alle deformazioni che ti insegnano a scuola la geografia in questo modo, non è che ti hanno spiegato di più. Ed erano tutti uguali. No, si sono fatti guerre lì, hanno creato questo movimento, come l'ha descritto tu, un po' trasversale, un po' fuori dai circuiti normali. L'hanno chiamato vaffanculo troica. La traduzione che ha dato Regnus 24 è stata questa: dice il movimento è simile. Poi, appunto per questo i giornali guai, ne se neanche una parola, deve andare sui blog a vedere cosa è successo. 1,5 milioni d'anno, tu hai detto 1 milione, ma dove vai in giro su queste cose? Parlano di 1,5 milioni, ma ne parlano una cosa grossa. In 20 città, 40 città portoghesi si sono mobilitati in contemporanea dicendo: no, non ci vogliamo stare. E i voti in Italia è stato proprio questo: noi l'euro non lo vogliamo, la crisi non la vogliamo pagare. Non l'abbiamo provocata, ognuno si assume la propria responsabilità. Non è che so contro l'Europa, ma so contro l'euro. Questo euro, questo modo di fare così, e ancora insistono, perché non a caso Napolitano è andato lì, mentre qui c'era questo terremoto, a consultarsi coi tedeschi e poi tornare a calmi. Adesso perché un vaffanculo forte gli è arrivato proprio a lui, a Re Giorgio, che ha voluto, ha imposto Monti per la governabilità a tutti i costi. Adesso risolvi la patata bollente, adesso prendete questa patata bollente in mano. Io non so se questi 160-170 parlamentari del Movimento 5 Stelle diventeranno scilipoti, non ci credo, perché quando ne potranno scilipotare, no? Poca roba uscirà a poter scilipotare, non gli basteranno proprio, perché questi ci provano a scilipotare pure questa lotta, ma adesso sta pure a noi. Io penso che da oggi in poi l'alta velocità camminerà molto più lentamente di quanto camminava prima. La resistenza della Val di Susa non credo che si fermerà, perché adesso hanno dato la delega a 160 deputati del Movimento 5 Stelle. Io spero che i movimenti contro le discariche, gli inceneritori, non si fermeranno proprio adesso, perché mo ci stanno i delegati in Parlamento, non affideranno all'emendamento parlamentare. Io spero questo, io mi augurerei che all'insediamento di questo Parlamento una bellissima giornata di circondare i palazzi del potere fosse proposta, tipo quella del 14 dicembre. Girandogli intorno pacificamente, se ce lo consentono, se la faremo come hanno fatto il 14 dicembre, perché questo è stato pure il segnale che è venuto della incazzatura, della rabbia, che si è sfogata dentro le urne, ma il 15 ottobre se ne stava sfogando in piazza, e qualcuno di questi ha preso le distanze, perché poi c'erano le elezioni, questi no, perché se no poi come i voti, come i piamo, e i primi a prendersi il culo sono stati pure questi qua, i rivoluzionari civili, un ceto politico che cerca, che solo attraverso la delega istituzionale pensano di rappresentare le masse. Non l'hanno capito, è finita. Le masse si sono stufati, non vogliono più delegare. È finita, è la seconda volta che ci provano tra arcobaleno e rivoluzione civile. Se non si rendono conto che è finita, andate per strada, mettetevi il caschetto e andate a manifestare davanti a dove c'è bisogno di lottare. Piatevi pure le botte dove ci sono. Beccatevi le denunce come se li piano centinaia e centinaia di militanti nell'ambito del sociale. È inutile che poi pensate che mettete il cappelletto alle lotte che gli altri fanno e voi le rappresentate là. Vanno detto no! E voi sanno di da tempo. Io vedo questa situazione. E io penso che proprio per evitare che questa questione deriva, si scilopotizza, perché la corruzione, questi la sanno girare, e il movimento adesso deve aumentare di intensità i conflitti, e deve aumentare perché il muro di gomma che fino adesso rimbalzava si è inclinato. Fino adesso l'unica risposta che ci avevano queste lotte erano i manganelli da polizia. Penso che adesso pure questi devono stare più tranquilli. Ettore ha messo immediatamente i piedi nel piatto. Noi invitiamo tutti i compagni e le compagne all'ascolto a mettere i piedi nel piatto immediatamente. Cioè, oggi ci aspettiamo che ci sia un riscontro telefonico, un riscontro di telefonate attraverso le quali i compagni, gli ascoltatori, le ascoltatrici ci dicono la loro opinione. Noi siamo qui pure non solo per dire la nostra, ma a recepire anche quello che proviene, le opinioni, le analisi che provengono da quei dai compagni che ci ascoltano, che non sappiamo non essere pochi, senza enfatizzare i numeri. Sappiamo che è una radio che c'ha un determinato ascolto, però è un ascolto importante. Noi siamo convinti che chi ha ascoltato anche adesso le parole di Ettore abbia delle cose da dire. Non possiamo certamente eludere, come ricordava Ettore, anche noi che ci siamo astenuti e che molti dei compagni pure che ci stanno ascoltando sono astensionisti da tempo, però anche noi sappiamo che non possiamo eludere l'esito di questo voto, ma non tanto per capire quali governi si potranno fare o non fare, quali balletti si consumeranno a livello di alleanze o non alleanze in questi giorni, ma per capire cosa sta avvenendo, come ricordava Ettore, realmente nelle profondità della società italiana. Io voglio solo aggiungere, per alimentare ancora di più il dibattito e per provocare, diciamo, gli interventi dei compagni e delle compagne che ci stanno ascoltando, alcune cose. C'è stato indubbiamente, Ettore, un terremoto elettorale, un terremoto che ha messo i partiti, diciamo, tradizionali all'angolo. Non sono in grado, sono impossibilitati a formare un governo omogeneo. L'unico che esce vittorioso da queste elezioni, che ne dica Berlusconi circa la sua ripresa elettorale, che pur c'è stata nei termini che indicava Ettore stesso, l'unico vincitore è Grillo. Grillo è il massimo leader, insieme a tal Casaleggio, del un movimento che possiamo definire un movimento contestatario di massa a questo punto, su base non ideologica, con un blocco sociale non meglio definito, perché c'è di tutto, che ha tolto voti a tutti, che è nato nella rete e che è cresciuto anche attraverso manifestazioni di piazza che però, a mio avviso, potrei anche sbagliare, sono state manifestazioni di piazza molto passive, nel senso che c'era uno che parlava e tanti che ascoltavano. Ora, certamente, e questa Ettore lo lasciava trapelare, una questione che a noi interessa molto capire, dentro questo movimento, perlomeno a livello elettorale, sono confluite in questa fase anche una serie di istanze proprie dei movimenti, anche ben radicati sul territorio. Alcuni anche l'hanno detto palesemente, si sono mostrati con Grillo, hanno partecipato alla sua campagna elettorale direttamente o indirettamente, ma sta di fatto che molti voti sono provenuti anche da movimenti, molti voti andati a grillo sono provenuti anche, diciamo, da compagni e compagne che hanno operato dentro i movimenti. Ora questa qui è una domanda che pongo. Questa qui è stato un atteggiamento di tipo strumentale attraverso il quale i compagni pure che hanno promosso, vitalizzato movimenti pure importanti, penso per esempio uno per tutti all'anno TAV, hanno inteso utilizzare magari strumentalmente per avere una maggior visibilità politica pur non rinunciando, non dando deleghe a Grillo e mantenendo la propria autonomia, ma questa è una questione sulla quale, ecco, già una riflessione si può fare. Questo è un problema che va indagato. O forse c'era anche un aspetto che c'è una necessità che, che partendo da movimenti, partendo da una ricostruzione di un conflitto reale innervato sui territori, nei posti di lavoro, nei luoghi di studio, c'è magari anche una richiesta, e questo è un altro punto interrogativo. Io non, su questo non mi sbilancio più di tanto, vorrei sentire opinioni. C'è anche una richiesta di una costruzione autonoma che in questo caso ovviamente non si è verificata per tutte le ragioni che accennava Ettore, di una soggettività politica che fino adesso i movimenti antagonisti, anticapitalisti, quelle forze che si richiamano a questi principi, a queste dottrine, a queste teorie, a queste pratiche, non sono state in grado di rappresentare, e in questo momento si gioca, come posso dire Ettore, una sorta di carta di riserva. Ma questo è un problema che ci interroga, interroga il movimento antagonista e anticapitalista. E poi c'è tutta una questione, come aprendosi questa fase nuova, se questa fase nuova può avere degli sbocchi più diversificati. Grillo non è un caso che abbia il consenso che gli proviene da molte direzioni. Io ho sentito in questi giorni, hanno sentito i compagni che ci ascoltano, che ci ha avuto plausi, elogi, attestati di benemerenza pure da parte di imprenditori importantissimi, uno per tutti dal vecchio di Luxottica o da centri finanziari quali la Goldman Sachs. Eppure in questo senso c'è qualcuno che vede nell'operazione di Grillo anche la possibilità di spazzare via tutta una serie di ciarpami legati a una sorta di capitalismo burocratico, statalizzato, per togliere quella serie di lacci e lacciuoli e rendere più libero il dispiegamento del capitale. Questo è un altro punto interrogativo. Io non do risposte, qui nessuno di noi in redazione dà risposte definitive su questa cosa, ma questo è anche un altro argomento sui quali invitiamo a riflettere chi ci ascolta e a dirci la propria opinione. Come ci potrebbe essere invece d'altra parte chi interpreta in questa sorta di sgonfiamento del muro di gomma al quale faceva riferimento Ettore la possibilità di creare ulteriori cunei in maniera tale che la disarticolazione del sistema politico istituzionale possa anche generare progressivamente anche una disarticolazione dell'attuale sistema economico sociale. Ma questo è uno di quegli altri temi che a noi ci riguarderebbe molto, diciamo, analizzare ed esaminare. Una parola, Ettore, concordo con te. Certo, queste elezioni dicono chiaramente una cosa, non solo per la sconfitta di Monti, ma più in generale lanciano un messaggio che di fronte alle politiche di austerità, le politiche restrittive, le politiche, diciamo, monetaristiche, c'è molta parte di gente che si oppone a questo, si oppone al prepotere della finanza, delle multinazionali, delle banche, forse lo fa ancora in maniera non del tutto consapevole, non del tutto cosciente politicamente, è una sorta di ribellione intima, interna, che fa parte della sfera interna delle persone, ma che può avere pure questo esiti, diciamo, politici importanti, perché questo prefigura pure il fatto, così per dirla in estrema sintesi, che la gente, di fronte al fatto che il capitale si riorganizzi, il dominio del capitale si riorganizzi in questo modo, non ci sta. Va bene. Allora, dico qualcosa, sperando che ci siano chiamate, certo, chiaramente fare un'analisi. Ma musica, eh? No. Chiaramente. Canta io. Chiaramente fare un'analisi su tutto il risultato elettorale, non solo su Grillo, non è facile, ci sono da analizzare tanti punti. Un po' già è stato descritto, cerco cerco di mettere ordine. Prima lo diceva Ettore, i grandi sconfitti sono prima di tutto Monti, per fortuna. Per fortuna l'elettorato, diciamo, italiano ha detto no alle misure d'austerity dettate non da un governo italiano, ma da un governo italiano succube degli ordini della BCE, dell'Unione Europea e della Germania. Un altro sconfitto è Bersani, che fino a due mesi fa, all'inizio della campagna elettorale, veniva dato minimo al 35%, ha preso circa 5% di voti in meno, siamo lì su quella cifra là. È una delle, secondo me, delle cause, dei motivi per cui ha preso così poco, è perché tutto il tempo, tutta la campagna elettorale è stata di governo con Monti sì, governo con Monti no, ma forse su che cosa lo facciamo, eccetera. Chiaramente, se una persona deve votare il PD, non vuole Monti al governo, per cui è fallimentare un approccio, una campagna elettorale del genere. Berlusconi è uno dei vincitori, a mio avviso. Per quale motivo? Perché lui, all'inizio della campagna elettorale, a parte che era scomparso, era un anno che non si vedeva più sulla scena politica italiana, era dato al 20% il PDL, era scontato che non potesse mai arrivare a vincere, ci è arrivato a un pelo, quasi ha vinto lui, e come diceva Ettore ha fatto una campagna elettorale impostata sul suo elettorato storico, l'ha fatta sul suo, non ha parlato di tutto e di niente, non ha parlato un po' dei lavoratori, un po' dei piccoli imprese, ha parlato del suo elettorato, della massa informe di popolazione scontenta dell'aumento dell'IMU, dell'aumento delle tasse, dei tagli, eccetera. Ha detto cose semplici, sparando cazzate enormi, tipo come ridare i soldi dell'IMU, eccetera. Però il suo elettorato è un elettorato che crede alle cose che dice Berlusconi, e su quello ha fondato tutto il 28-29% dei voti che ha preso. Poi abbiamo avuto Rivoluzione Civile, che è scomparsa completamente. Chiaramente ci stanno vari errori che ha fatto Rivoluzione Civile durante la campagna elettorale. Uno di questi, per esempio, è come PD con Monti la stessa cosa. Se uno deve votare Rivoluzione Civile o uno dei vari partitini di sinistra, vuol dire che non vuole il PD al governo. E allora tu perché devi stare tutta la campagna elettorale a dire con Bersani sì, con Bersani no, Ingroia che se ne è uscito, se non sbaglio, una settimana prima del voto dicendo no, vabbè, a me mi va bene che mi votate alla Camera, al Senato votate il PD. Cioè, cose folli, completamente folli. Poi se ci mettiamo anche le liste, sì, però la questione anche del leader, no? Dell'impatto mediatico che ha il leader, Ingroia pareva svogliato quando andava in televisione. Questa è un'analisi che a me non piace fare, però va fatta, perché purtroppo quando si parla di elezioni conta anche il leader della coalizione. Poi abbiamo Grillo, che ha sfondato, è andato contro ogni previsione, ha preso il 25%. Questo mo magari ci ritorno fra un attimo, perché è un'analisi bella approfondita da fare. E poi abbiamo l'astensione, che è cresciuta rispetto a un solito 18-20% fisiologico dell'astensionismo in Italia, si è aggiunto un 5%. Sì, siamo arrivati al 75% dei votanti, per cui 25% d'astenuti. A questi io aggiungo oltre 1 milione di schede bianche o nulle, che sono il 3,5%, non è poco. Si parla di 1 milione di persone che vanno ad annullare la scheda o consegnano in bianco. Per cui dovremmo anche ragionare su 28,5%, 29% di astensione. Questa astensione, secondo me, dentro nell'analisi di Grillo, poteva essere più alta se non ci fosse stato un movimento come quello, il Movimento 5 Stelle. Perché dico questo? Perché Grillo ha saputo, e io marco su Grillo e non sul Movimento 5 Stelle per la campagna elettorale. Poi per il programma invece c'è da parlare di Movimento 5 Stelle, sono due cose che vanno tenute in parte distinte. Grillo ha saputo coagulare intorno a sé il malcontento sociale, cosa che non è riuscito a fare il PD, non è riuscito a fare Rivoluzione Civile. Ed è riuscito a rimescolare questo malcontento sociale sotto il piano di nuovo, nuovamente, della delega istituzionale, della delega al Parlamento. Cioè noi avevamo una possibilità che ci fosse un'astensione alta, per cui un mandare a fanculo proprio chiaro, diretto, senza mezzi termini, di tutto il sistema politico, non solo politico ma anche economico e sociale. C'è stato invece il 25% dell'elettorato che no, ha votato di nuovo. Alcuni dicono voto di protesta, secondo me per molte di queste persone è un voto di protesta, ma per tante altre no. Secondo me credono nel progetto, nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle, che va detto questo, è un programma discusso nelle assemblee del Movimento 5 Stelle, fatte online, sul web, tutto quello che vogliamo, che per me è una pratica molto limitativa, diciamo, della condivisione reale fra le persone, eccetera. Però c'era un programma chiaro, ed è un programma che né il PD né la Rivoluzione Civile hanno saputo mettere sul campo. cioè un programma che parlava di determinate cose, di welfare, di acqua pubblica, di sostegno, fra virgolette, alle lotte che hanno portato avanti i movimenti sociali, come diceva Ettore ora, negli ultimi anni. Per cui, da un lato c'è il voto di protesta, da un lato c'è comunque una base per cui hanno votato il Movimento 5 Stelle e Grillo in Parlamento. E io questo lo dico perché sento, da quando c'è stato il risultato elettorale, troppe persone, compagni e compagne soprattutto, che danno del fascista, del fascistoide a Grillo, cercano fra le righe la frase fascista che ha detto Grillo, si scagliano contro l'elettorato stupido, definito stupido, ignorante di Grillo, qualunquista, cittadinista. È vero, il Movimento 5 Stelle è un movimento cittadinista, ma noi adesso, ad oggi, non abbiamo le basi statistiche e sociologiche per definire l'elettorato di Grillo. Come diceva Serafino, c'è di tutto, c'è trasversale, non si sa bene quale ceto, quale classe in maggioranza abbia votato Grillo, però, secondo me, una novità tanto forte, è una novità che manda a fanculo la casta politica, non può essere liquidata in 448 dicendo ah vabbè so qualunquisti, va approfondita questa situazione qua. Io qualche settimana fa l'avevo detto, ne avevo parlato di questa questione qua, cioè che Grillo, il Movimento 5 Stelle, non proponeva un cambiamento del sistema economico e sociale, proponeva un cambiamento all'interno del sistema politico, all'interno del capitalismo. Questo è uno dei grandi limiti che nessuno penso che possa mettere in dubbio, però senz'altro, a mio avviso, rappresenta il 25% dell'elettorato che ha votato Grillo, rappresenta un fatto nuovo non solo in Italia ma in tutta Europa, Bisogna analizzare da capo questa situazione. Non c'è più, secondo me, un'analisi che vada bene come fino a sabato scorso. Ora bisogna cambiare tutti i termini di paragone, bisogna capire meglio, bisogna approfondire. E sulla mobilitazione che diceva Ettore, da subito io sono convinto di questa cosa. Fin da subito i compagni, le compagne, i collettivi, le varie organizzazioni, i movimenti sociali devono stare sul pezzo, devono intensificare la propria lotta, devono tentare di mettersi in rete ora più che mai, perché non possiamo stare ad aspettare che il PD faccia il governissimo col PDL, che poi cade dopo qualche mese, e se cade dopo qualche mese si va di nuovo ad elezioni, Grillo prende il 40%. Non si può aspettare che Grillo faccia la prima cazzata per cui poi smerdare e dire ah è come tutti gli altri. Bisogna affrettarsi, perché rischiamo di scomparire, perché nella scena politica italiana di cambiamento si parla solo in termini di Movimento 5 Stelle, non si parla di cambiamento in termini di lotte sociali che parlano di un'altra società e di un altro sistema economico. Bisogna affrettarsi perché se no scompariamo. Io aspetto, spero che ci siano altre chiamate per analizzare meglio. Qualche telefonata squilla, però non riusciamo a prenderla, perciò infatti intanto ricordiamo il numero 0649 1750, insomma, per partecipare al dibattito che stiamo facendo anche per sta domenica, insomma, rispetto all'analisi del voto. Noi naturalmente, insomma, a radio già martedì stesso ha cominciato ad aprire la propria linea, insomma, agli ascoltatori. Ce n'è una, tanto c'è una chiamata, la prendiamo. Pronto? Ciao, buongiorno. Ciao. Ciao, stavo sentendo, quindi volevo giusto intervenire brevemente, così lascio spazio per altre persone. La prima cosa, secondo me, insomma, quanto ho sentito, l'analisi sul voto inerente a Berlusconi è del tutto sbagliata, nel senso che l'astensione è cresciuta e secondo me il voto di Berlusconi si è polarizzato, cioè quella parte che comunque economicamente si è avvantaggiata effettivamente o l'ha rivotato o ha votato Monti, e poi gran parte dei voti sono stati persi, quindi comunque 6 milioni di voti secondo me è una propaganda che abbia avuto un successo. Le previsioni erano a dicembre 21-22% e sono rimaste quelle. Col PDL e Lega erano intorno al 28-29% oppure 31%, e sostanzialmente sono rimaste inalterate. Quindi quello che ha stravolto tutto è stato appunto il voto che è arrivato a Beppe Grillo, e su quello secondo me c'è l'aspetto inquietante, che è un movimento interclassista che quindi esprime una situazione appunto di polarizzazione grossa, di impoverimento del cosiddetto ceto medio, ceto anche medio-alto, che però aggrega a sé politiche che sono incompatibili. Infatti secondo me la campagna elettorale che ha fatto al nord è completamente diversa da quella che ha fatto in altre regioni, e è una politica in questo senso pericolosa, il discorso delle partite IVA e così via, che soprattutto non prende di petto la questione. A me mi è sembrato incoerente come prima ha affrontato la questione dell'euro e poi dopo che sono uscite le elezioni la prima volta ha fatto la dichiarazione pubblica: non è il problema dell'euro, non è il problema di altre monete, il problema è il debito pubblico. Quindi comunque è sicuramente una situazione che nemmeno lui sa gestire, e non c'ha chiaramente una politica di classe né tantomeno socialista, però la prospettiva che pone è appunto di disintegrazione invece di un voto popolare che prima comunque andava a partiti sinistri e adesso non c'ha nessuno a cui rivolgersi. Quindi è un po' una situazione diversa da quella greca, che però secondo me convergerà su una stabilizzazione di questo conflitto sociale in qualche modo, proprio perché aggrega delle classi che non si possono aggregare, insomma. Poi questo è uno spunto, insomma, per voi, per chi sente, insomma, per il dibattito. Ok, grazie a te, ciao. Buona giornata. Insomma, io volevo partire dal ragionamento anche per seguire un po' quello che è stato il dibattito anche in radio di martedì scorso, no? Insomma, rispetto alle elezioni. Insomma, ci fu un messaggio, un SMS arrivato al numero della radio, eccetera, in cui poneva, diciamo, l'elemento centrale per un dibattito, insomma, e si accosti pure alla caratterizzazione politica che ha questa radio, insomma, perché è inutile divagare, insomma, sull'analisi di tutto il voto. Diciamo che l'elemento centrale per noi è il movimento, quindi, insomma, come si pongono oggi le lotte sociali dentro questo contesto qua, cioè perché il movimento, era questa la domanda, non è riuscito dopo 20 anni, insomma, che dice le stesse parole d'ordine che dice Grillo, a costituirsi, insomma, come movimento politico centrale in Italia, pur avendo, diciamo, le stesse parole d'ordine su alcuni elementi centrali, su altri non ne ha anche diversi, però insomma sugli elementi centrali politici che Grillo ha messo, insomma, sulla piazza, la maggior parte delle rivendicazioni sono molto simili, se non addirittura uguali a quelle che diciamo noi. Insomma, una per tutte, il reddito di cittadinanza, per dirne una, ma poi anche molte altre, annullamento del debito, e la questione sul lavoro, che poi però la lettura di Grillo, secondo me, insomma, è anche molto pericolosa rispetto a quella che è il rifiuto di un lavoro di un certo tipo. Il discorso che ha fatto a San Giovanni, rifiutiamo, cioè perché continuare a lavorare in miniera per 1.000 euro al mese in quelle condizioni, siamo d'accordo tutti. Poi naturalmente però la proposta politica su riguardo al lavoro è quella della cogestione fra lavoratori ed imprenditori della stessa impresa. Mi sembra un po', insomma, una cosa, cioè un po', è una proposta alquanto corporativa. Però io mi interrompo un attimo perché abbiamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto? Sì, sei in onda. Sì, Giampiero, volevo fare una precisazione. Io, se ricordo bene, in Groia non è che ha detto che si sarebbe volentieri unito al PD, lui ha specificato: io invito il PD ad unirsi a noi se però Bersani sposa quei punti che sono il nostro programma. Questo mi sembra di ricordare di quello che ha detto in Groia. Quindi quello che fate passare voi, come se comunque Rivoluzione Civile si sarebbe alleato con il PD a prescindere da quello che era il programma di Rivoluzione Civile. Questo io mi sembra che già avevo intervenuto su sta cosa, però voi evidentemente ricordate diversamente qualcosa che io ricordo invece in questi termini. Grazie. Grazie, ciao. Allora, no, poi magari rispondiamo pure a questo punto sul ruolo che ha avuto Rivoluzione Civile, però intanto arriviamo a questo. Però nel senso, a me mi interessa relativamente, cioè cerchiamo di porre, almeno di intercettare un canale di dibattito per gli gli ascoltatori, insomma, che secondo me è questo, insomma, come mai, insomma, con le stesse parole d'ordine che noi abbiamo dato per anni, siamo stati i primi, bene o male, a scoprire, cioè parlando con dei compagni, insomma, si notava pure questo, siamo stati pure i primi a scoprire le potenzialità della rete, di internet, sull'uso anche politico della rete, e poi però su quest'uso ci siamo andati a scannare, a frastagliare, insomma, a frazionare dentro la rete, mentre Grillo ne ha assolto subito tutte le potenzialità e ne ha fatto crescere un movimento dentro. E poi, insomma, questo è un punto, però appunto, cioè, ritornando a quello che dicevo sulle considerazioni appunto della fallimento, insomma, del movimento sugli stessi punti programmatici, il dibattito in rete è molto ampio anche fra compagni, insomma, si leggono articoli da InfoOut, a Wuming, a molti blog, insomma, di vari pezzi di movimento, diciamo, il dibattito ruota intorno a questo. E volevo riportarne una parte di questo dibattito che mi interessa molto, insomma, come poi alla fine Grillo legge le nostre parole d'oro, cioè le potrebbe andare ad interpretare, cioè, insomma, siamo sicuri che il reddito di cittadinanza è la stessa visione e ha la stessa applicazione che non vorremmo fare noi, cioè da dove prende i soldi Grillo? Le prende andando a tassare ricco oppure andando a tagliare i stipendi e i pubblici dipendenti? Quindi, insomma, molto c'è l'innamoramento anche tattico, strategico, perché tutto questo è l'impianto giustificatorio che molti compagni che purtroppo hanno votato Grillo ne danno, e lo diciamo purtroppo perché comunque molti compagni e compagni con aria sommessa poi, insomma, dicono: vabbè, sì, io ho votato Grillo perché non c'è, perché mi è sembrato che potesse rompere un'ondata, il muro di gomma a cui noi invece siamo sempre andati a sbattere. Poi alla fine però interroghiamoci su quelle che sono le applicazioni reali, che quello che noi facciamo. Ma c'avevamo la abbiamo una chiamata, pronto? E mi sembra che ci stiamo arrampicando sugli specchi. Cioè, io, vabbè, non sono solito parlare alla radio, però con tutti voi ho parlato spesso e mi sono spesso incazzato su questo metodo non onesto di affrontare quel problema. La cosa di Grillo, ce l'abbiamo detto molto chiaramente, la dovevamo fare noi, siamo delle teste di cazzo, siamo prigionieri di questi comportamenti, quasi come, posso dire, che ci impediscono un movimento effettivo in grado di superare anche tante situazioni insuperabili. Appunto, Daniele, scusa, vedi che si sente male la comunicazione. Non so se stai al cellulare o meno, però si sente proprio male. Aspetta, vediamo un po' se si sente meglio. Così si sentirebbe bene. Si sentirebbe bene? Sì, vai, vai. Stavo dicendo, questa incapacità di saper affrontare questi argomenti in maniera scevra, libera, con un discorso di effettiva necessità di cambiamento, di risoluzione di problemi scottanti, ogni volta viene messo sempre davanti: ma tu che vuoi fare allora? Vuoi accettare il sistema? Non sei rivoluzionario? Sei un controrivoluzionario, perché in fondo in questo modo risolvi il problema, invece, cioè, cose che la gente si è rotti i coglioni, anche i compagni anche si sono rotti i coglioni di questa impostazione. E voi, secondo me, adesso state ancora continuando a arrampicarvi sugli specchi, voi, noi, un po' tutti quanti i compagni. Secondo me invece dobbiamo assolutamente, io sono d'accordo su quella cosa che ha detto Ettore, anche se stavolta appunto spero che poi non faccia le mediazioni del cazzo che fa lui di solito. Quindi la complementarietà fra le lotte e il successo che c'è stato rispetto a una situazione effettivamente di partecipazione, non una situazione di delega. Là c'è stata una situazione di grande partecipazione, di saper coinvolgere anche persone potenzialmente, tra virgolette, non rivoluzionarie, però in grado di voler ottenere delle trasformazioni effettive di vivibilità, che sono, non sarà il comunismo, ma sono chiaramente oggi delle forme di poter vivere più concretamente, più attinente alle proprie esigenze. Questa è una cosa che nessuno deve disconoscere, senza che ci arrampichiamo a raccontare cazzate, come si dice, l'interclassismo, i delegati, il palazzo. Queste cose qua giravano anche nel movimento, se voi le ricordate, la famosa lista di lotte, che era ancora più diciamo dissacrante di questa di Grillo, che era proponeva la elezione delle persone che si presentavano e poi si dimettevano e venivano mandati al Parlamento soltanto degli esecutori materiali, che potevano essere avvocati, notai, che cazzo era, che poteva essere in grado di applicare quello che le assemblee, quello che il territorio, quello che i cittadini decidevano, proprio come fase diciamo di passaggio per distruggere questo tipo di funzionamento. Il Grillo l'ha fatto in questo modo, l'ha fatto in maniera chiaramente imperfetta come tutte quante le cose, però noi tanto di cappello ci dobbiamo levare e la dobbiamo smettere di rompere il cazzo su tutti questi distinguo, tutti questi capelli, e invece dobbiamo cercare assolutamente di costruire, di trovare appunto, di saldare, di trovare sbocchi, di trovare complementarietà, di cambiare effettivamente le cose, prendere al balzo questo tipo di situazioni. Questo è il mio parere. Okay, bene, grazie Daniele, ciao. Vabbè, io intanto mi scuso per la parola sommessa che ho usato per descrivere l'atteggiamento dei compagni che hanno votato Grillo, però a sto punto, visto che mi sono arrivate sms anche da alcuni compagni quando ho detto questa cosa, invito i compagni che hanno votato, che sono partecipi delle lotte eccetera, a chiamare, come ha fatto Daniele in fondo, a dire perché hanno votato Grillo a sto punto, se l'elemento è questo, qual è la prospettiva. Cioè, io invito i compagni a descriverci, perché io non riesco a vederla, qual è la prospettiva di complementarietà, come diceva Daniele prima, che possiamo andare a trovare fra il movimento di Grillo e le lotte sociali, perché io ho ancora difficoltà a vedere questo piano di complementarietà quando poi vado ad analizzare il programma di Grillo e quello che vorrebbe fare. Cioè, perché comunque sul piano, se andiamo sul sito di Grillo e andiamo a leggere il programma, sto cazzo di programma di Grillo è molto generico, e poi sulle questioni di lavoro, cioè sulle questioni insomma centrali che almeno a noi attengono, insomma, è molto generico, non dice nulla sul oltre al reddito di cittadinanza. La questione economica di Grillo si pone sul livello di gestione, cioè di condanna della gestione finanziaria dell'economia capitalista, e su questo siamo d'accordo, ma non va oltre, non ha una prospettiva di cambiamento. Allora qual è il piano concettuale di lungo periodo su cui noi compagni invece ci mettiamo? Perché se il piano concettuale è quello di riformare, di snellire il piano economico capitalista rendendolo più equo e più in una prospettiva più sociale, allora io non ci sto. Io non ci sto a questo. Va bene. Sentiamo le telefonate. Volevo dire pure una cosa io. Pronto? Pronto, buongiorno compagni. Dici. Allora, Grillo sarà un comico, però non è un buffone. Almeno questo qui, come dire, è quel qualcosa che noi altri compagni che l'abbiamo votato abbiamo percepito. Attraverso tutte quante gli anni e le battaglie più o meno che ha proposte, oppure che ha supportato ad esempio i corsi vari, gli attacchi che ha fatto in sede di società quali da Telecom, Monti Paschi di Siena eccetera eccetera, quelle cose lì sono cose fattive che ha fatto, e ok, non identifichiamo il duce di turno, sono d'accordo, il pifferaio di turno, però in ogni caso è diventata una massa critica con la quale in ogni caso abbiamo, non dico una speranza, ma come dire una certezza che andando avanti con questo tipo di azione che abbiamo fatto e raggiungendo, come dire, una massa finalmente, insomma, importante, e non stando dietro a quella massa di buffoni che abbiamo avuto, che rispondeva ai nomi di Giordano, di Liberto, Rizzo, Bertinotti e compagnia cantante, e Ferrando poi, che come al solito è marginale. Adesso abbiamo una forza che potenzialmente, avendo il 25%, come dire, in sede istituzionale, cioè dove si fanno le leggi adesso possano essere fatte. Allora, il compagno che prima ha parlato, appunto intervenuto in trasmissione, adesso insomma direttamente lì dallo studio, si chiedeva: allora io non sono d'accordo, ok, ma tu, amico mio, conti per uno così come me, e tu poi forse molto probabilmente, come la trasmissione ha sponsorizzato, non sei manco andato a votare, quindi manco per quell'uno lì conti. Allora, io sbagliando o facendo correttamente sono andato a votare, ho seguito, come dire, finalmente un percorso di emancipazione da coloro i quali fino negli ultimi 20-30 anni mi hanno soltanto preso per il culo, da Treu in poi, poi non parliamo poi di Berlinguer fratello, quando era ministro dell'università, della ricerca, eccetera, eccetera, che hanno cominciato appunto il processo di distruzione, poi lasciamo perdere gli ex comunisti e sono diventati presidenti della Repubblica, infilati nelle varie istituzioni, oppure quei sedicenti compagni che incontriamo quando andiamo alle Poste e ci incazziamo, all'INPS e ci incazziamo, all'INAIL e ci incazziamo, all'INPDAP e ci incazzavamo, e a prendere i mezzi pubblici e ci incazziamo. Cioè, come dire, dal punto di vista societario, noi siamo pervasivi, siamo presenti sul territorio, all'interno delle istituzioni, all'interno dei luoghi di lavoro, però in ogni caso, appunto, come ha detto invece Daniele, ci siamo rotti le palle. Non ha detto palle, però insomma la cosa è quella, ci siamo rotti le palle. Adesso, come dire, potenzialmente è una possibilità di cambiare. Io il programma l'ho letto, i programmi ho letto, le dichiarazioni stanno sul web, come dire, sono lì fotografate e congelate, piuttosto che tutte le chiacchiere che ci hanno propinato in questi ultimi tempi. Adesso è passata per una settimana, vediamo come procederà, speriamo che si sbrighino, che comincino a fare qualcosa di fattivo, e stiamo lì a partecipare, e ognuno, anche io, poi ci prenderemo le nostre responsabilità. Ciao compagni. Ciao, grazie. Senti, io volevo, intanto andiamo per ordine, danno qualche risposta. Intanto al compagno che precisava sulla questione Ingroia, è un problema suo se non l'ha capito, perché Ingroia ha cercato da sempre, da prima e dopo, un'alleanza col PD, mettendo solo la clausola di non fare un governo con Monti, non tanto sui programmi, ma tanto che Monti restava fuori. Ci avevamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Dici, a tutti. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Ma io sinceramente, diciamo, ogni tanto succede, non so da tanto d'accordo con le cose che ho sentito, ovviamente non con tutti, insomma Francesco e l'altro compagno che non mi ricordo adesso il nome, insomma, diciamo più giovane lì dentro, mi trovo abbastanza a condividere quello che dicono, ma in generale insomma si parlava dei compagni e compagne che hanno votato Grillo più o meno sommessamente, francamente era un po' che pensavo che stato sto termine era un po' abusato. Cioè, sta questione della complementarietà che viene assurda a teoria, insomma, io ritengo abbastanza grave, cioè, il fatto che venga fatta questo tipo di rapporto che viene fatto sembrare oggettivo, insomma. Ma io mi domando, non semplicemente, ma dico, ma è bastato così poco per far perdere vista una quarantina d'anni in cui non trovavamo il candidato su nessuna lista? Oppure a legge quello che succede realmente oggi, insomma, con chi dovrei essere complementare, con quale istituzione che oggi c'ha meno peso del passato, insomma, in periodi di cessione di sovranità nazionale progressiva, in periodo di fiscal compact, in periodo di direttivi europei, di direttori, di lettere che vengono spedite, che se ne fregano di tutta l'istituzione parlamentare loro prima che noi, perché noi sembra che appunto compagni e compagni sommessamente vanno lì e portano il loro contributo alla democrazia, perché libertà e partecipazione, no? Sull'onda della canzoncina, per me libertà è non partecipare, a questa roba qua, riprendersi un pensiero autonomo, indipendente, quello che abbiamo cercato di fare per decenni, e che non svenderò certo per 25% di Grillo, con tutto il rispetto per l'impegno e la capacità politica di qualcuno che non fa nemmeno politica di mestiere, insomma, che per certi versi noi dovremmo rubargli qualche segreto, così come veniva detto anche in telefonate precedenti, insomma, ecco. Però andando un pochettino a cercare di capire, diciamo, come stavamo tentando di fare tutti insieme sto risultato, io non mischierei francamente, diciamo, il fenomeno dell'astensione con il voto di protesta, che a mio parere, insomma, giudico sostanzialmente euroscettico, cioè è un voto di protesta contro il tipo di politica europea che in Italia ha trovato, diciamo così, la sponda nel governo, nel governissimo Monti, appoggiato da PD e PDL, eccetera, eccetera. L'astensione è aumentata di un buon 5%, nonostante il lavoro di recupero, insomma, diciamo così, di queste liste che hanno drenato, che hanno raspato, insomma così, il fondo del barile, purtroppo, non soltanto nel movimento Notav, purtroppo sottolineato, ma anche per esempio in tutta la situazione operaia, che a me pesa forse anche più della questione Notav, dell'ILVA, del Sulcis, ma posso dire anche nella categoria in cui lavoro io, molti colleghi hanno votato Grillo, oppure sul movimento dell'acqua pubblica, che ha vinto un referendum, però insomma diciamo che il processo di privatizzazione va avanti ugualmente, in tutta la frastagliata situazione dell'ambientalismo più ampiamente considerato. Una cosa a mio parere è comunque il rifiuto di andare a votare, cioè il rifiuto della delega elettoralistica, cioè di credere che ci sia qualcuno che possa rappresentare gli interessi che non sono compatibili, che non sono rappresentabili, che non vengono presi in considerazione in quelle istituzioni di ciance, così come si esprimeva Carlo Marx sul Parlamento. Una cosa è questa, interclassista, non rivoluzionaria, per carità, pure poi l'astensionismo non è fatta da operai rivoluzionari, è fatta da tanta gente che però si è rotta le scatole di votare ogni tot anni in qualsiasi situazione, soprattutto in questa in cui appunto questo Parlamento è diventato un'istituzione sempre più deciance, sempre più di parassitismo sociale, insomma un peso sulle nostre spalle di cui ci dovremmo liberare, intanto ideologicamente e poi, chissà, un domani pure praticamente. E un'altra cosa appunto invece è la conferma della partecipazione appunto all'istituzione, addirittura al recupero ideologico, insomma, no, della possibilità nostra di battere le manine, viva via la democrazia, questa volta diciamo così ce la facciamo a unire le sorti dei movimenti con il risultato elettorale. Non credo che sia così, è vero che purtroppo buona parte di questi movimenti, insomma, rinnegando pure quello che avevano detto tante volte, insomma, molti di questi compagni e compagne avevano detto che non avrebbero delegato, eccetera, eccetera, e poi insomma ci siamo ritrovati a trovarci anche questo dentro il movimento De Grillo, ma che non c'è solo questo, è una minoranza secondo me, però è dentro i movimenti probabilmente una maggioranza, e allora forse lì la questione è quella che diceva prima un compagno in radio, bisogna far tesoro di questa lezione, che a mio parere non è la prima. Se questi movimenti sociali, antagonisti o rivoluzionari più vagamente definiti, non riescono a darsi una visione propria, un'indipendenza, un'autonomia anche organizzativa, se finisce sempre così, insomma, per portare a calmulino di altri progetti, altre idee, altri programmi, comunque che non ci appartengono, insomma. A mio parere invece e quindi di conseguenza da questo ragionamento ne detrago che non ci sarà, a mio parere, e spero di sbagliarmi, lo dico col cuore in mano, non ci sarà un'espansione prossima, nel futuro prossimo, dei movimenti sociali, ma ci sarà invece una sostanziale riduzione o quantomeno una sostanziale sazietà, no? Dato che c'è la sponda, adesso ci pensano questi a mandare tutti a casa, tutti a fanculo, tutta sta cosa qua, insomma, ecco. Invece le sorti, diciamo così, convenienti a noi vanno un po' rimandate nell'incrudimento della complessità sociale, cioè dell'intervento europeo, sarà commissariamento, sarà un governissimo, comunque sarà un imbastardimento delle condizioni di vita e di lavoro, e quindi la possibilità finalmente che anche in Italia si crei una situazione di movimentazione di massa più forte, in cui diciamo un intervento di carattere di prospettiva possa trovare un suo svolgimento. Ecco, questo era quello che volevo lasciare sul dibattito. Insomma, spiace non per volta tanto non essere sempre d'accordo con tutti, ma pure sta storia che bisogna cercare per forza l'ecumenismo e essere d'accordo, insomma, forse è da abbandonare pure questa qua. Va bene. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, cari, ciao, ciao. Allora, stavo cercando di necessitano delle risposte al compagno che parlava di ingroia. Ho spiegato, non è vero quello che dice lui, ma lui ha cercato il fatto che gli hanno chiuso la porta in faccia ed è rimasto quello che è. Il fatto è che lì si è capito chiaro che il politicismo a tutti i costi non paga, e non ha pagato manca ai livelli più alti, manca a vendola, non funziona. Non sono d'accordo manco Coppino, lui dice non è d'accordo, io neanche, perché io penso che oggi il movimento di lotta per l'acqua pubblica, per bene comune, è più forte e meno debole di quello che era ridotto anche da aver vinto il referendum. Sta se la lotta si riprende sul serio, che se poi stiamo a guardare, perché aspettiamo dalla finestra a vedere gli eventi come accadono, è chiaro che poi le cose vanno così, no? Ma la stessa cosa vale per il movimento, per la TAV. Se si ripiega sull'emendamento parlamentare e non si continua la lotta così come si fa da 20 anni, da 25, allora c'è il riflusso. Ma sta sempre ai compagni la stessa cosa. I movimenti tanti radicali che vengono dal basso contro le discariche, contro gli inceneritori, penso che sono, può non avere più peso. Quando io dico questa operazione politicista, come può essere definita, e io la conosco, le piattaforme di Grillo, molto di questa era uno dei motivi pure perché ero convinto astensionista, però sta tutto quanto a noi pensare di portare avanti il conflitto adeguatamente con i nostri metodi e le nostre parole d'ordine, e non delegando ai 160 deputati che ha preso Grillo, perché poi volevo pure raccontare come ci sono diventati deputati alcuni di questi. Vai, c'è una telefonto? Ciao. Allora, premesso che insomma io non ho votato mai come questa volta, la mia convinzione al voto è stata proprio di cuore, insomma, nel senso che se posso aver avuto dei dubbi in passato su delle cose più regionali, mai come questa volta invece ho pensato che invece proprio non votare fosse importante. Detto ciò, su questa questione dei Grillo, i movimenti eccetera, innanzitutto io per esempio ho letto molto anche su questa cosa di Vuming eccetera. Io non penso che ci sia stata una sconfitta dei movimenti rispetto a questa questione di Grillo. C'è stata da parte degli elettori, anche di molte compagne e compagni che hanno votato Grillo, un voler dire no anche a tutta quella parte di movimenti di sinistra che per anni ha usato i movimenti per fini elettorali. Non è un caso che quelli che secondo me hanno perso maggiormente sono stati Rivoluzione Civile e SEL, cioè è palese. Poi tutto il PD e via dicendo, quindi mi sembra una risposta anzi molto anti-elettorale anche il voto dei compagni e delle compagne verso Grillo, che non vuol dire per questo un voto a favore di, io penso che molti che hanno votato Grillo manco il programma sanno, cioè nel senso che al di là poi di tante cose che Grillo ha detto, l'unica cosa su cui secondo me lui alla fine ha fatto più o meno campagna elettorale è la questione ecologista, è la questione tra virgolette un po' portata avanti anche da Loretta Napoleoni sulla questione della decrescita, non lo so, anche perché stiamo parlando di una questione economica comunque, cioè Casaleggio è un imprenditore, non è che stiamo parlando di ideali, stiamo parlando comunque di un altro sistema di sfruttamento che sulla green economy, tra virgolette, o comunque su quello che può essere il concetto di decrescita e delle risorse ambientali e via dicendo, sicuramente porterà avanti delle cose. Non è che stiamo parlando appunto di un cambiamento rivoluzionario, per cui io non penso che la gente abbia votato, anche le compagne e compagni hanno votato Grillo perché credono in Grillo, hanno votato molti Grillo proprio per la questione anche molto tra virgolette di movimento di protesta, purtroppo, cioè o purtroppo non lo so, questo secondo me non sminuisce minimamente i movimenti che hanno, cioè quelli che nel corso degli anni non hanno mai votato stanno nelle lotte, ci sono sempre stati, dalla Val di Susa al Nomos ci stanno, a Taranto piuttosto che in Sardegna le compagne e compagni ci stanno, le cose, chi in questi decenni ha continuato a fare le lotte territoriali, un riconoscimento. Secondo me anche tra virgolette questa cosa di Grillo, pur non votando, c'è stato, non penso che chi ha votato in Val di Susa Grillo poi in questo momento abbandoni la lotta e deleghi tutto a quello che è il Movimento 5 Stelle. Per cui, insomma, io la cosa che dico è continuiamo, cioè, nel senso che le cose si vedranno poi a chi ci starà nelle lotte, cioè a chi continuerà a starci nelle lotte, non a chi invece pensa di poter, tra virgolette, appunto, nel Movimento 5 Stelle trovare i propri ideali, eccetera. Le questioni continuano ad essere continuamente nelle lotte. Se vogliamo analizzare chi è stato eletto nel Movimento 5 Stelle, io tra i miei colleghi del lavoro ce ne ho avuti diversi, sono comunque gente che fa le lotte ambientaliste, cioè, o comunque che si occupa di molte cose molto base, che non pensa a carriere politiche o via dicendo, non penso, poi ci saranno quelli ovviamente che passeranno di qua, passeranno di là, cioè di tutto, però insomma io lo vedo ancora molto di base come questione. Poi bisognerà vedere insomma anche Grillo quello che farà, perché ripeto, non penso che di tutte le cose che sono state dette verranno portate a termine o verranno dette, però ecco, io non penso che anche tutto questo discorso sul Movimento, in qualche maniera, questo dire ci dobbiamo stare noi, le compagne e compagni che le lotte l'hanno fatte ci sono sempre stati in questi anni, non ci sono più quelli che invece da 10 anni, 15 anni a questa parte avevano deciso e hanno deciso più una linea diciamo così di voto piuttosto che di rappresentanza piuttosto che di lotte dal basso. Okay, grazie, ciao. No, poi su questa cosa qua volevo dire, insomma, le letture possono essere tante, però sicuramente non parliamo della sconfitta del Movimento in termini di proposta politica, perché anzi la proposta politica del Movimento ha fatto breccia nella misura in cui comunque portando la Grillo ha ricevuto il 25% su molte proposte che il Movimento ha fatto. Quindi la mia critica non è quella del fatto che le parole d'ordine nostre appunto sono fallimentari, eccetera. Il problema nostro è che comunque noi con la nostra forza, con il nostro tipo di organizzazione, eccetera, non siamo riusciti a fare breccia invece in questa società, e ha fatto breccia Grillo in una certa maniera, però c'è una differenziazione di fondo, che è quello della delega in senso lato. È chiaro che comunque il Movimento, i compagni comunque rivoluzionari eccetera, comunque chi si pone in maniera fortemente conflittuale non pone un ambito di partecipazione in maniera di delega, cioè il Movimento pone i cittadini direttamente su un piano di attivismo immediato. Grillo invece ha preso la delega di chi è stufo, di chi è incazzato, di qualche compagno eccetera, che poi alla fine, però insomma, questo è il problema, noi perdiamo perché non siamo riusciti a abbiamo perso su alcune cose, io purtroppo lo dico, abbiamo perso non tanto sulle proposte ma sulla praticità, cioè sul mettere in pratica alcune proposte, abbiamo perso però anche perché vogliamo, pretendiamo che i cittadini si attivino in maniera immediata, non per la delega ad un voto o anche una delega di rabbia, come sono state le piazze passive di Grillo. Allora, questo è un altro dei punti che volevo mettere in piano. Abbiamo una chiamata, pronto? Sì, pronto, eccomi qua. Vai. E allora, dicevo al compagno che ha risposto che voi volete fare una sorta di indagine sociologica su chi ha votato Grillo, io mi vorrei mettere a disposizione per questo, perché io l'ho votato, ma prima volevo farvi una domanda un po' franca, cioè voi perché vedete questo antagonismo nei confronti di Grillo? Perché se uno che ti dice guardate che noi entriamo come delegazione, nel senso che 100 stanno dentro, gli altri adesso 8 milioni stanno fuori, ma siamo gli stessi, A me questo discorso mi sembra molto parente del discorso che fanno sempre i movimenti della non delega, del prendersi carico della gestione della cosa pubblica da parte di tutti, eccetera, eccetera. Voi perché invece vedete questa questione in antagonismo? Non so, no, ma magari fai anche l'intervento e poi ti diamo una risposta anche dopo il tuo intervento, così lasciamo la linea libera. Quindi ti invito a concludere se avevi anche un'altra riflessione. Perché io dico francamente, ho votato Grillo perché mi parto sempre da una questione di astensione, perché come giustamente voi dite sempre in radio, partecipare e rivendicare è il primo atto politico, insomma. Però così, per caso, vedendo una intervista a una televisione svedese e andandomi a curiosare sul programma, certe cose mi hanno convinto, quindi non sono neanche d'accordo su questo fatto che il programma di Grillo sia un po' fumoso e generico, cioè quando ti dicono addirittura che vogliamo che l'X% deve essere energia prodotta, autoprodotta con questo tipo di tecnologia, eccetera, a me mi sembra un programma che va proprio nel dettaglio a spaccare il capello in quattro, che ho fatto una girata sugli altri programmi, stanno tutti al balcone di Mussolini, insomma, la retorica che impazza alla grande. Cioè, a me mi sembra che è questo che alla fine mi ha convinto, senza togliere niente alla lotta che si deve portare avanti in prima persona, e mi sembra che i deputati 5 Stelle, se è vero quello che insomma hanno detto, perché poi bisogna anche dare un minimo di fiducia se non è la prima volta, possano anche essere una soglia per portare avanti la questione del MUOS, che addirittura hanno occupato il Parlamento siciliano per costringere Crocetta, che si stava rimangiando la parola data in campagna elettorale. A me mi sembra un dato importante. Non so se vogliamo discutere su questa cosa, io mi sembra che ho preso già anche troppo tempo. Grazie, ciao. Guarda, io provo a dare una risposta semplicissima, che è la mia risposta alla domanda che facevi: perché siete antagonisti a Grillo? Perché Grillo, per esempio, non rivendica per esempio perché Grillo non è un anticapitalista e noi sì, questa già mi sembra una risposta possibile, per esempio. Ma io comunque volevo andare, però, e poi magari chi è qui in redazione potrà risponderti in maniera più sistematica, in maniera più organica. Io però volevo tentare di fare un'analisi anche da quello che abbiamo ascoltato dagli interventi dei compagni qui in radio. Io ho l'impressione che nel tentare di giustificare o di spiegare il voto a Grillo, questo voto a Grillo ci abbia tutta l'aria del voto di protesta in realtà. Cioè, io mi chiedo, ma siamo sicuri che anche i compagni e le compagne che hanno votato Grillo non stiano proiettando su Grillo delle aspettative che in realtà, appunto, non possono essere soddisfatte da Grillo, dal Movimento 5 Stelle? Cioè, quello che diceva Dario è importante, è fondamentale. Grillo parla di reddito di cittadinanza, ma i soldi per il reddito di cittadinanza li va a prendere dai salari, dagli stipendi pubblici. Grillo parla di sindacati, di abbattere i sindacati, ma ne parla da destra. Ne parla, voglio dire, in maniera... Non ne parla come abbiamo detto spesso noi, no? In termini di auto-organizzazione, di sindacalismo di base, ne parla in termini fascisti di eliminazione appunto della forza sindacale. Insomma, noi su questo dobbiamo stare attenti, anche chi l'ha votato tra i compagni deve stare molto attento a capire se c'è una proiezione propria su Grillo di qualcosa che però Grillo non ha detto e non farà, semplicemente perché Grillo sta all'interno all'interno di un sistema che è quello capitalista, tant'è che Goldman Sachs, come dire, guarda e strizza l'occhio alla vittoria di Grillo, e sta all'interno di un sistema e sta all'interno di una lettura che non è una lettura di classe, e questo mi pare che sia un punto abbastanza centrale. Senti, che c'è una chiamata? Sì, abbiamo una chiamata, pronto? Pronto, ciao, sono K, e volevo, insomma, stavo ascoltando proprio molto il dibattito su la questione elettorale, la vittoria di Grillo, e noi ieri abbiamo avuto un'iniziativa da Anticancelli a Discarica, e oggi sul Messaggero, quello alla cronaca locale, sono uscite un paio di paginoni che riportava, insomma, abbastanza bene, insomma, riportava la presenza del pattuglione di neoeletti del Movimento 5 Stelle che in settimana hanno rilanciato l'appuntamento e sono venuti al presidio di ieri mattina, e quindi c'erano neo senatori, neo deputati, neo consiglieri regionali e consigliere, e sono venuti là al presidio, insomma, e sul Messaggero c'è un bel paginone, una bella foto grande, non ho avuto modo di leggerlo, però insomma io posso raccontare la partecipazione dei personaggi in questione lì, e anche quello che il movimento, l'idea che il movimento contro la discarica di inceneritore si è fatto della situazione, anche della presenza di questa forza all'interno delle strutture istituzionali. Noi sul programma del Movimento 5 Stelle apprendiamo, ed è scritto alla chiara lettere, che per dire, un tipo di tecnologia come gli impianti a biogas, a biomassa, di tipo anaerobico, quindi quelli senza ossigeno che utilizzano la fermentazione e poi bruciano i gas che per produrre energia elettrica e incassare i 28 centesimi kilowattora dei certificati verdi, sono un tipo di tecnologia che secondo il programma elettorale del Movimento 5 Stelle sono il futuro, bisogna guardare a quella direzione. Noi nel nostro quadrante abbiamo già aperto una campagna contro questo tipo di impianti, perché sono una truffa, ma non so di spiegare tutta la vicenda perché sono una truffa, perché se no andiamo per lunghe. E negli interventi ieri mattina, ieri sabato, abbiamo sottolineato questo aspetto e abbiamo spiegato ai presenti e ai neoeletti che proprio su questo aspetto il loro movimento si possono aprire grosse grosse contraddizioni anche con la propria base, visto che è noto a tutti che proprio questo tipo di tecnologia nasconde dietro una truffa, e quindi è stato ripetuto più volte, ed è stato anche citato il caso sfortunato di un esponente del Movimento 5 Stelle di Velletri che sostiene politicamente il progetto dell'impianto a biogas nel quadrante di Velletri, e noi insomma condanniamo fortemente questo sostegno a questo tipo di impianto per le motivazioni che abbiamo detto. I rappresentanti hanno preso atto di questa nostra posizione politica, probabilmente già sanno che nella base, quel tipo di una base loro elettorale, base di militanti del Movimento 5 Stelle, quei tipi di impianti già danno fastidio per il tipo di tecnologia che ci impongono e pretendono di utilizzare, però insomma hanno preso atto di questa situazione. È stato divertente perché poi c'è stato anche un momento in cui si è riuscito a fare un mini dibattito sulla rappresentanza, sulla rappresentatività. Purtroppo io non ho partecipato, però per dire ci sono stati molti compagni che invece sono riusciti anche a parlare su questo aspetto con questi neodeputati, neosenatori, neoconsiglieri anche faccia a faccia, quindi magari invito anche loro a telefonare e a raccontare cosa ci si è detti ieri mattina al presidio davanti alla discarica. E poi rimane il fatto che questi signori che hanno queste responsabilità istituzionali, se con atti concreti mettono il movimento nelle condizioni di operare al meglio, e in particolare ci permettono di recuperare tutte le documentazioni di cui abbiamo bisogno nei tempi congrui, logicamente uno fa delle valutazioni di un certo tipo. Se si riproducono gli stesse infamate che per dire fa SEL, Sinistra Ecologia Libertà, logicamente uno fa altro tipo di valutazioni. Però la cosa interessante è stata proprio che si è riuscito a sviluppare un dibattito sulla rappresentanza, sulla rappresentatività in un contesto che era poi il contesto dell'ingresso della discarica e della vertenza che c'era contro un inceneritore e la discarica. E quindi rilancio l'invito a tutti i compagni che hanno sostenuto questo dibattito e sono riusciti a parlare anche poi a vis-à-vis con tutti questi personaggi di chiamare e raccontare quello che è successo. Chiudo dicendo che ieri la lotta insomma non è finita e ieri abbiamo inaugurato il presidio fisso nei pressi dell'ingresso della discarica per monitorare il presunto avvio di cantiere dell'inceneritore, quindi siamo tutti i giorni su Via Ardeatina al chilometro 25 e insomma se ci volete venire a trovare c'è il presidio fisso con la tenda e la cucina, un programma di attività, magari nei prossimi giorni lo pubblichiamo e niente. Un ringraziamento per la, per l'intervento, se c'è qualche domanda non lo so. No vabbè, insomma hai spiegato anche che cosa state facendo adesso ad Albano, quindi aspettiamo naturalmente, come dicevi tu, i prossimi appuntamenti per andare a capire insomma come si evolve la lotta appunto poi quotidiana, non per delega appunto come ti sottolineavi anche tu insomma lì contro l'inceneritore. Noi ti ringraziamo e diamo spazio anche ad altre chiamate, grazie, ciao. Ok, grazie a voi, ciao. Dario, io vorrei fare una piccola puntualizzazione a beneficio di chi ci ascolta. Noi abbiamo deciso stamattina, cosa che peraltro facciamo anche solitamente, però oggi ancora di più, di usare questo metodo, cioè noi esprimiamo ovviamente delle opinioni, diamo pure dei giudizi, però abbiamo soprattutto chiesto a chi ci ascolta di esprimere opinioni, dare dei giudizi, nel massimo rispetto delle opinioni e dei giudizi che vengono espressi. In questo senso sta arrivando una telefonata, ma completo solo questo rapidamente. A tal proposito, noi non puntiamo l'indice accusatore contro chi ha votato o per chi ha votato, però auspichiamo pure che nessuno punti l'indice accusatore, cosa che non mi sembra ci sia stata, è stato detto qualcosa così un po' larvatamente, nemmeno contro chi ha fatto una scelta politica precisa di astenersi. Gli astenuti, per tutte le cose che diceva anche Francesco, considerando le schede bianche, sono tantissimi, sarebbe quasi, oso dire, un partito di maggioranza in questo paese. Quindi io credo che vada posto grande rispetto pure nei confronti di coloro che si sono astenuti, che hanno espresso un'opinione politica del tutto diversa, ma estremamente dignitosa e motivata politicamente in molti casi. Questa è una puntualizzazione, però prendiamo la telefonata. Pronto? Ci siamo astenuti, ma siamo nelle lotte, però non è che siamo a casa a guardare. Pronto? Sì, vai. Lorenzo, volevo intervenire. Allora, io sono un compagno che ha votato Grillo e volevo porre un'attenzione su una cosa di cui parlava prima K, che diceva che hanno avuto i grillini al presidio e che hanno avuto un dialogo. Io vorrei far notare che è una cosa fantastica il dialogo, perché permette il confronto, come stiamo facendo adesso in trasmissione, di presentare le proprie idee, le proprie opinioni e crescere. Non mi sembra che la sinistra che c'è stata fino adesso ci abbia dato questa possibilità, cioè possiamo partecipare, sì, però poi i ruoli dirigenziali, il gioco delle scacchiere, dei personaggi all'interno delle grandi aziende, all'interno della politica, è sempre rimasto lo stesso. Questa delusione, questo andamento è quello che ci ha allontanato e che ci fa pensare che Grillo, con le sue promesse, con le sue parole, perché poi bisogna vedere se i fatti saranno realmente quelli, è chiaro che stiamo tentando, stiamo investendo in Grillo, cosa che io non mi sono sentito di fare con le solite persone in cui ho avuto fiducia e in cui sono stato tradito, è stata tradita la mia fiducia, perché mi sono sempre trovato muri davanti, incompetenti, nei ruoli dirigenziali che non hanno permesso né ai giovani di venire né di crescere, perché va bene che rimangano a un basso livello, perché va bene che il popolo si manifesti ma non intervenga più di tanto. Questa è sempre stata una scorrettezza che ha portato via tanta tanta gente, cioè facciamo tanto per stare insieme, per creare iniziative, per partecipare alle manifestazioni, ma poi quando ti trovi sopra di te la persona che ti rappresenta, che fa i cavoli suoi, allora non va bene. Ed è molto bello che se ne sta parlando apertamente, senza fare grandi discriminazioni fra il movimento di Grillo, la sinistra, e chi comunque la pensa come noi, ma stiamo parlando, e questa per me è una cosa fantastica, perché ci stiamo rendendo tutti conto di quello che, a cui stiamo andando incontro. Grazie. Va bene, grazie. Ciao. Io dico due cose. Prima di tutto mi accodo a quanto detto poco fa da Serafino, cioè noi stiamo esprimendo delle opinioni, e in quanto esprimiamo delle opinioni rispettiamo soprattutto le opinioni altrui, e meritiamo e pretendiamo rispetto anche dagli altri, per cui non è che si tratta di cazzate o non cazzate, si tratta di riflessioni. Uno può pure sbagliare, può pure dirla giusta, questo sta a vedere poi la realtà e la pratica e l'esperienza ci diranno chi ha ragione o meno. Io voglio dire una cosa prima di passare alla telefonata, tanto cercherò di essere brevissimo. Quando abbiamo fatto prima del voto la campagna elettorale per l'astensionismo, sì, perché di questo si trattava, specificavamo vari punti. Il primo punto era questo, che astenersi dal voto non bastava, bisognava astenersi dal voto e lottare. Un altro dei ragionamenti che si è fatto in favore dell'astensionismo è che da 30 anni i parlamenti nazionali, le istituzioni dello Stato, non hanno senso, perché lì vengono prese delle decisioni che sono imposte dagli interessi economici. Per cui, per come la vedo io, non ha senso fare un discorso del genere quando si parla di PD, di PDL, di rivoluzione civile, di Monti, eccetera. E poi non lo si può fare anche per Grillo. Dobbiamo renderci conto che o c'è una maggioranza bulgara, però vuol dire che il paese è spaccato fra il 55% che è per il cambiamento totale e il 45% no, o c'è una maggioranza del genere che ti permette di fare tutto quello che ti pare, perché sennò con una frammentazione della società così com'è, tu al Parlamento non puoi incidere, neanche se ci mandi il più pulito, quello che ha le migliori intenzioni. Per cui il discorso che faccio io, che dobbiamo fare? Questa è una domanda provocatoria, come, mettetela come volete, però è una domanda che faccio. Ma che stiamo a fare? Stiamo dando la delega a noi? Io non, questo non voglio dire che i compagni che hanno votato Grillo non partecipano alle lotte, io non conosco tutti, soprattutto quelli che hanno chiamato non riconosco la voce, eccetera. Mi suppongo che ci stiano nelle lotte. Però che dobbiamo fare? Mandiamo all'aria tutto quello che abbiamo criticato per decenni, la delega in favore dell'astensionismo attivo e della lotta attiva? In favore di un voto a chi? A chi? Su quale base stiamo? Stiamo sulla base della costruzione del socialismo? Perché secondo me non c'è. Io sono sempre per lottare in prima linea. A me del voto non me ne frega proprio un cazzo, lo dico proprio chiaramente. Vabbè, ma lei... Pronto? Pronto? Pronto? Sì? Sì, buongiorno. Io vi ringrazio perché vi ascolto da anni. Sono uno dei neoletti. Ieri ho partecipato all'incontro ad Albano. Mi chiamo Adriano Zaccagnini, tra l'altro vi dichiaro il mio nome, non c'è assolutamente problema. Quello che vi dico è esattamente queste qua sono le cose che servono a tutti quanti, cioè il dialogo, cercare di confrontarsi, le critiche aspre anche al movimento, perché ne possiamo solo beneficiare. Almeno io sono molto aperto all'ascolto e al dibattito. Certamente ci sono delle criticità, l'auto-organizzazione interna è fondamentale, ma bisogna, tra virgolette, nel senso partecipare tutti a questo processo interno del 5 Stelle. Quest'anno non ci sono al momento, non è che è tutto delineato, anzi è tutto in elaborazione. Io in realtà non voglio rubare tanto tempo alle discussioni, ma volevo semplicemente ringraziarvi perché comunque sentire questo tipo di dibattiti su Radio Onda Rossa sicuramente è una voce in più, una voce fuori dal coro che può dare degli spunti importanti, quindi vi stavo ascoltando mentre mangiavo, tra l'altro. Senti, scusa, cioè, visto che ci hai chiamato, vogliamo approfittare della tua presenza, visto che comunque appunto sei intervenuto in radio, e naturalmente le domande che ti vorremmo fare sono tante e non avremo neanche il tempo, però magari una che ci veniva anche rispetto al dibattito, insomma, fra Movimento, Piattaforma 5 Stelle e punti, insomma, programmatici che invece il Movimento ha sempre portato avanti. Prima io ho fatto insomma questa critica anche per esempio sul reddito di cittadinanza, che è uno dei punti insomma più vicini fra alcune espressioni di movimento e il Movimento 5 Stelle, e là insomma mi sembra di capire da quello che ha detto sempre Grillo, che appunto cioè poi l'applicazione reale sia del reddito sia ad andare a ricercare su fondi invece che vanno poi a tagliare i salari del pubblico impiego e quant'altro, visto le dichiarazioni che ha fatto Grillo, questo mi sembra insomma uno dei punti di idee e contraddizione poi sull'applicazione reale di alcune cose. L'altra domanda che ti volevo fare, molto breve, poi mi risponderai a tutte e due, è la questione del conflitto. In Val di Susa, per esempio, siete stati il primo partito che è stato votato. Però quando poi il movimento di fatto, insomma, leggo un po' di citazioni fatte da alcuni articoli di analisi di Compagni eccetera, anche Notav, insomma, quando il movimento Notav invece crea e pratica di fatto conflitto anche duro e aspro contro le forze dell'ordine che occupano di fatto quel territorio là in maniera militare, il conflitto è sempre stato da parte dei Notav uno dei punti centrali della propria lotta. La vostra piattaforma, che invece rivendica diciamo la legalità dell'agire e la condanna di chi ha la fedina penale sporca anche alla partecipazione pubblica eccetera, questa cosa qua non è una contraddizione anche? Allora, il giustizialismo fanatico non ha senso, almeno personalmente. Io credo che la rete dei cittadini, la rete degli attivisti del 5 Stelle sia molto differente anche nelle opinioni. Ad esempio, ci stiamo confrontando su che legge elettorale proponiamo noi. Cioè, all'interno del 5 Stelle c'è un dibattito aperto su tutti i temi, sullo stesso reddito di cittadinanza. Noi ieri parlavamo, ma appunto ci dicevamo fra di noi, sì, ma è un reddito di sussistenza che va a integrare il reddito di disoccupazione, e l'assegno di disoccupazione non è che può essere un reddito di cittadinanza esteso a 40 milioni di abitanti, perché a volte può essere letto in questa maniera. Ovviamente ovviamente appunto bisogna approfondire le tematiche, noi stiamo cercando di approfonderlo, di approfondire, di formarci soprattutto, ci stiamo cercando di formare. Quello che il fatto che il reddito va a toccare le pensioni o altre comunque forme di appunto di fondi pubblici, anche quello è tutto da discutere. Certamente se si toccano, si toccano esclusivamente le pensioni alte, altissime, e da questo punto di vista mi sembra un discorso di classe, no? Nel senso, si vanno a toccare i redditi di chi ha troppo, non di più, ma troppo. Tendenzialmente è questa la linea. Ad esempio, il fatto della lotta in Val di Susa, beh, noi ieri eravamo a fare un presidio davanti all'inceneritore, al sito del probabile inceneritore, siamo andati a fare la manifestazione a Malagrotta quando è venuta di Manno, nel senso, poi ognuno ovviamente declina le modalità del suo agire politico differentemente, ma c'è una forte componente nel 5 Stelle di persone che sono attivisti, come conosciamo gli attivisti di tante lotte. Poi c'è una percentuale che non è indifferente, ma che è minoritaria dal mio punto di vista, di persone che magari sposano ancora i principi del capitalismo. Quella sicuramente è una questione aperta, ma nel senso, contestualizzando storicamente, appunto, come si diceva, non c'è modo di essere rappresentati, di contare nelle istituzioni. con un partito piccolo non si conta, cioè questo è un esperimento per vedere se funziona, non è, adesso, non è detto che debba funzionare per forza, certamente finora ha più funzionato che non funzionato, quindi io sono fiducioso, sono soprattutto fiducioso nel poter portare dei contenuti, io mi occupo di agricoltura, di ambiente, ben precisi, ad esempio io so benissimo cos'è una centrale, un impianto a biogas e a biomasse, e il programma regionale che abbiamo costruito insieme in maniera partecipale, che continuerà adesso con i tavoli tematici, noi c'è stato un grosso scontro riguardo a chi voleva i piccoli impianti a biomasse, e mi auguro che poi nel momento in cui si va a legiferare o si deve votare contro qualcosa, venga articolato bene il discorso, approfondito le tematiche, e quando si approfondiscono le tematiche poi si arrivano a delle conclusioni che difficilmente possono seguire interessi economici, o se li seguono vuol dire che sono riusciti a scavalcare l'intenzione degli attivisti, e lì ovviamente c'è ovviamente una lotta politica interna, intestina, ma questo è sempre successo storicamente in tutte le organizzazioni politiche di qualsiasi forma, che ci siano personalismi interni o meno più consapevolezza. Io credo che all'interno del movimento ci sia una consapevolezza che sta crescendo, che sicuramente in altri percorsi politici è più forte, ha più maturità, ma proprio per questo chi ha un'esperienza maggiore in questo momento dovrebbe sentire quasi un po' il dovere di contaminare chi si occupa di ambiente nel 5 Stelle, chi si occupa di salute nel 5 Stelle, chi si occupa di cultura o di lavoro. Ok, grazie mille per la chiamata e ti ringraziamo insomma per l'intervento. Ciao. Grazie a voi, ciao. Ciao, ciao. Lo ringraziamo pure per l'esclusiva. L'esclusiva abbiamo fatto perché sennò diventa lunga, mo c'è un'altra telefonata. Il fatto che si occupa di agricoltura, mi dovevano rispondere pure, perché Grillo sui migranti ha fatto delle battute non di quelle condivisibili. No. Oggi ci sono gli schiavi che si stanno ribellando e oggi si vedono alla SNIA queste lotte, no? Pronto? Pronto, sì, salve. Buongiorno. Anche se state fuori tempo, però sì. Datemi un minuto. Sì, sintetico, Marco. Sono sintetico, appunto, come Ettore diceva, i braccianti, le lotte braccianti, l'agricoltura, infatti sarebbe molto interessante, secondo me, il confronto con questa forza politica che qui c'è da di poco, cioè ci sta che più di 8 milioni di persone hanno scelto di una delega non delega in qualche modo, da una parte sono andati a votare, io lo dico chiaramente, non voto da quasi sempre, insomma, una volta sono andato a votare nella vita mia, quindi è una scelta politica, ma so pure che l'astensionismo, che qualcuno diceva insomma che è aumentato, non è aumentato sicuramente grazie a un'opzione astensionista attiva. Perché poi dall'altro se va a vedere chi non ha presi voti è Berlusconi soprattutto, anche il PD, ma soprattutto lì l'astensionismo che è aumentato è chi ha la bufala di Berlusconi non ci ha continuato a credere, ma questa è una piccola parentesi se vuole aprire. Quindi sarà interessante vedere insomma quelle lotte che in qualche modo si sono espresse dal punto di vista del comparto agroalimentare, che è il più grosso in Italia, cioè il business più grosso in Italia è l'agroalimentare in questo momento, che non riguarda soltanto l'agricoltura e quindi chi prende, no, i prodotti dalla terra e li mette nei cassoni dei camion che poi attraversano il sud e vanno nelle grosse aziende di trasformazione acquistate dalle multinazionali del settore, Carrefour, Esselunga, no? si citava prima, Ipercoop e quant'altro, ma anche appunto tutta la logistica che è un'altra vertenza grossa nel centro nord, ma anche qui a Roma, le cooperative che fanno trasporto, stoccaggio e nonché stanno insomma queste aziende di trasformazione che stanno in mobilizzazione invertita, che sono soprattutto lavoratori di provenienza immigrata, insomma, come settore. Quindi sarà molto interessante confrontarsi con chi nel programma comunque sia ha dei punti che sono dei punti di contatto con chi da sempre ha fatto tali lotte e tali vertenze. Quindi secondo me è sbagliato interrogarsi in questo momento se è buona l'opzione Grillo. Chi ci crede, come l'ascoltatore che ha chiamato, che ci si è investito di tutto punto, perché sta gente, l'unica cosa che possiamo dire è che non fa parte di un apparato di potere che finora è stato il vero muro di gomma. Perché un esempio, 1 milione di persone in piazza contro la guerra, chi se lo ricorda, una decina d'anni fa, insomma, che ha ottenuto? Un pezzo di, insomma, no? Niente ha ottenuto, perché sono stati reinvestiti tutti i soldi che non sono stati investiti sulla scuola pubblica, sulla sanità, sulle opere pubbliche, per rimettere a posto tutto il terreno, insomma, che frana, che crolla, che viene inondato e via dicendo, sono stati investiti nelle campagne di guerra, dell'investimento sulle armi e via dicendo. Un muro di gomma che poi i compagni che tutti i giorni stanno dentro i movimenti di lotta territoriali, chi contro inceneritori e discariche per affinché non venga sottratto un presidio sanitario e via dicendo, si sono trovati finora di fronte, no? Quella rappresentanza politica di interesse che va da tutta la nomenclatura della rappresentanza istituzionale. Oggi quello che è avvenuto, e non escludendo noi, cioè nel senso partendo anche da quello che tutti i giorni nei territori, nei posti di lavoro, auto-organizzandosi si è portato avanti, raccogliendo delle parole d'ordine, facendole proprie e dandosi una forma organizzativa che è Movimento 5 Stelle, che come sentivamo è qualcosa in divenire, non è qualcosa di fossilizzato che viene deciso dentro, insomma, gli uffici del direttivo politico, che poi i conti che deve far tornare sono quelli degli interessi privati e non che globali, perché poi qualcuno diceva giustamente che la rappresentatività delle istituzioni locali, localissime, così come quelle centrali nazionali, hanno meno potere sicuramente dei 15-20 anni fa, e lo sappiamo, ma uno dei programmi, cioè dei punti, insomma, è la sovranità. Cioè Peppe Grillo, così come chi lo sostiene nel movimento, chi si organizza nei territori, a me è sembrato di sentirlo, la sovranità alimentare. Non si parla di sovranità alimentare parlando appunto dei braccianti, dei piccoli agricoltori che non vogliono essere sfruttati né se stessi né sfruttare i braccianti, appunto perché la multinazionale va lì e fa il prezzo a 20 centesimi al chilo per un prodotto che poi troviamo sui scaffali a 1,20 euro. Questo vuol dire sovranità alimentare, vuol dire non cede comunque a un mercato libero che poi il succo d'arancia lo compra in Brasile a 15 centesimi. Di questo sarà a noi, insomma, cioè su questo piano sarà a noi comunque rimette in moto le lotte che da sempre si portano avanti, ma io sono contento di vedere uno scenario dove chi finora a chiacchiere o a fatti è stato contro, diciamo, questo tipo di resistenze, che purtroppo in gran parte sono residuali, non sono di massa, si sta cagando sotto perché comunque gli si è rotto un giocattolo. Quindi secondo me dobbiamo soltanto che essere contenti di questa destabilizzazione, e poi sta a noi non essere dei cazzari e continuare ad alimentare, insomma, giorno dopo giorno sui territori senza avere l'annebbiamento e chi ci si vuole confrontare, come hanno fatto Albano, cioè insomma il movimento, insomma, dei castelli romani contro inceneritori e discariche ieri, un confronto aperto e chiaro e trasparente. Ne possiamo soltanto che giovasse, a mio avviso. Ok, grazie. Anche da questa situazione. Salve. Ciao, ciao. Vabbè, guarda, noi non prendiamo più chiamate perché naturalmente sono già le 13, insomma, e 17, quindi andiamo naturalmente a chiudere. Io faccio una mia riflessione di chiusura. Sono felice della trasmissione di oggi, perché anche con la mia provocazione personale, insomma, siamo riusciti a sentire i compagni che hanno votato Grillo, questa nuova categoria, insomma, che abbiamo forgiato oggi. Qui siamo addirittura riusciti a sentire di sua sponte, insomma, un eletto di Grillo a mettere in campo un dibattito che naturalmente continuerà perché cioè, sta famosa complementarietà fra le lotte sociali, il movimento e il Movimento 5 Stelle è un dibattito che andrà avanti molto nel tempo, sicuramente non ne potremo fare a meno, non tanto per nostra scelta ma per le scelte oggettive che verranno prese sicuramente altrove. È chiaro che non mi sento di addossare i nostri mali del movimento alla vittoria di Grillo. È chiaro, insomma, questo non mi voglio arrampicare sugli specchi da questo punto di vista. Sono convinto, cioè continuo ad essere convinto che l'entrare dentro, cioè, andiamo a parlare, a discutere dei principi anche generali, insomma, però entrare dentro ai meccanismi delle istituzioni capitaliste come lo Stato, eccetera, non porti ad un cambiamento tale che la nostra, perché per fortuna ancora l'abbiamo, prospettiva diciamo di cambiamento della società, appunto, possa andare a trovare dentro a Parlamento una forza, diciamo, reale, anche perché i meccanismi parlamentari, i meccanismi statali portano sempre ad annullare le vere spinte rivoluzionarie, e questo non lo dico io ma lo dice la storia, insomma, più o meno. È chiaro che l'impatto che ha avuto il Movimento 5 Stelle portando alcune parole d'ordine possa solo, e in questo sono positivo, possa solo favorire, se siamo capaci, ad amplificare le conflittualità in questo paese. Naturalmente è chiaro che il movimento purtroppo ancora non è stato capace di dare risposte sui grandi temi: l'Europa, il debito, la crisi stessa, insomma, siamo sempre andati in critica ma non siamo mai stati propositivi in maniera tale, purtroppo, e questo è un dato oggettivo, tale da diventare il movimento una forza reale in questo paese. Il movimento è frazionato, vive di lotte sociali che però non hanno, cioè hanno la capacità di rendersi comunque autonome come la Val di Susa, e poi strumentalmente di dare il voto a Grillo quando serve, se serve, ma comunque l'autonomia di movimento ci sarà, c'è sempre stata, anche perché è antisistema. Quindi quella là è l'unica salvaguardia, insomma, che le lotte sociali hanno in sé contro, e questo lo dirò sempre, la delega alla propria lotta, perché il movimento non si è mai posto in questo piano perché pretende la partecipazione attiva di tutti e non la delega. Poi naturalmente si vedrà, però insomma queste elezioni di sicuro hanno tracciato un solco nuovo e differente su cui il movimento naturalmente deve cominciare ad interrogarsi in un'altra maniera. Io condivido totalmente quello che hai detto, Dario, aggiungo solo piccole cose che valgono, diciamo, per una mia chiusura. Io non scarto la complementarietà alla quale faceva riferimento Daniele, alla quale hanno fatto riferimento altri, anzi credo che col Movimento 5 Stelle si possa fare un percorso insieme su vari punti, esattamente quelli che ricordava anche adesso Dario, nelle lotte nella società, nel conflitto, e possiamo anche contribuire a mettere in mora questo assetto politico istituzionale, nel senso che si possano avviare le condizioni pure per forme di democrazia più diretta. Però io non volevo far cadere le questioni che ha detto Valentina con estrema semplicità, parlando di Grillo, ma Grillo ci dice se è favorevole al capitalismo, sì, capitalismo no, è una cosa semplice questa che Valentina ha posto, e non è una questione di lana caprina, non è una questione atta a essere posta nella discussione per divagare, per sognare semplicemente, qui dietro, diciamo, questa domanda che noi dobbiamo comunque porre a Grillo, a me non mi pare che in questa fase lui dia segni di collocarsi, diciamo, in una visione anticapitalista. Quando parliamo, Dario, lo ricordavi tu, dei termini generali di un programma, però non è una questione secondaria, perché qui, oltre a combattere contro i nemici che abbiamo indicato, quelli che hanno portato avanti le politiche europee, Monti, Berlusconi, qui l'imputato principale della faccenda resta il capitalismo. Qui l'imputato principale del disastro, al di là di chi poi lo invera, al di là di quelli che lo pongono in essere attraverso atti, resta questo per noi l'imputato principale. Certo, questo è un orizzonte. Queste, diciamo, sono questioni che non si pongono all'ordine del giorno dell'immediato. All'ordine del giorno c'è una ripresa, come esattamente dicevano Ettore, Dario, Francesca, Valentina, tutti coloro che ci hanno telefonato, è il conflitto reale, concreto, su cose concrete. Però qui sta la differenza. Se noi eliminiamo questo orizzonte, si elimina un punto, diciamo, strategico, che è quello che è atto, diciamo, nella nostra visione, a dover rovesciare questo stato di cose, cioè ad avere un modello di produzione, un modello di distribuzione della ricchezza totalmente diversa. E qui parliamo non di questioni così irreali, qui quando parliamo di combattere lo sfruttamento parliamo di questioni molto concrete, perché decine di milioni di persone in Europa vivono sulla loro pelle lo sfruttamento prodotto da questo sistema, che poi, ripeto, si invera attraverso politiche nazionali, europee, delle banche, la finanza, ma è questo al centro. Quindi questa è una visione che nessuno, a me, mi si può dire che uno non può essere d'accordo, che si sogna troppo, che bisogna essere molto più concreti, però questo diventa l'elemento, diciamo, di discrimine essenziale tra chi si accontenta di andare a soluzioni seppur necessarie e legittime, e chi continua a cercare di vedere una strategia di più lungo respiro. Noi chiudiamo, io do due battute solo, ma proprio a livello di battuta o slogan, è uno vale uno da Grillo, no? Io sono per la lotta di classe, uno non può valere uno, e uno è la classe, è una parte grossa, ampia. Io penso che bisogna tenere in mente questo, perché se uno vale uno, poi alla fine chi, le decisioni vere, insomma, concrete di cambiamento e rovesciamento è questo. Grillo non è un anticapitalista, ma non è una cosa che ce lo dobbiamo dire. Di sicuro però ha utilizzato un meccanismo all'interno di un sistema che ha impedito pure che il conflitto si radicalizzava ancora di più nelle piazze, perché l'ha contenuto nelle urne. Ma questo sta alle nostre condizioni, se questa condizione si realizza. Quando io all'inizio parlavo che scilipoteranno molti di questi, io non lo so quanti, ma in attesa che vengano i scilipoti di turno per cercare di normalizzare la situazione, se quelle cose che abbiamo detto, non sta a Grillo pensare che le deve fare, ma sta a noi che da anni su ste cose ci stiamo, di rilanciarle, perché il muro di gomma, la difficoltà ce l'hanno loro, non ce l'avevamo noi. Noi le difficoltà ce l'avevamo avuto sempre sulle piazze, sulle cose, oggi vanno intensificate. Sicuramente proseguiamo il dibattito nelle prossime trasmissioni pure di questa cosa, perché se ne parlerà, vogliamo vedere alla verifica, alla realizzazione di certe situazioni, vediamo come va a finire. Tanto per far finire, nessuno del Movimento 5 Stelle riesce e va alle televisioni, alle radio, si rifiutano, qui noi non l'abbiamo cercato, ha telefonato lui, ci ha fatto piacere, speriamo che altri eletti ci telefonano e ce lo dicono, perché qui c'è quella base che loro fanno riferimento, che l'ascolta. Pertanto, intanto a tutti quanti aiutateci, perché qui hanno messo i microfoni nuovi, ci avevamo le spese, e alla sottoscrizione al conto corrente postale i 61 80 40 01 intestata a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56. Mandate la sottoscrizione, potete sottoscrivere pure attraverso, collocandovi sul sito www.ondarossa.info, trovate pure i link che si può sottoscrivere pure online. Pertanto, a domenica prossima, ciao. siamo i proletari in lotta, gli oppressi che hanno detto no. La forza immensa di chi vuole rovesciare la società, nelle fabbriche, nelle campagne, nelle scuole e nei quartieri. La violenza degli sfruttati questo mondo trasformerà. Questa voce che sale dalla lotta e che va nell'internazionale più forte umanità. Questo pugno che è uguale l'uomo all'uomo farà, che l'internazionale più grande umanità. Noi siamo la classe di chi crede nella vera libertà. La si conquista col fucile, scende a patti la perderà. Senza patria, senza legge e nome, la battipaglia a Düsseldorf. Siamo la tendenza generale, siamo la rivoluzione. Questa voce che sale dalla lotta e che va è l'internazionale più forte umanità. Questo pugno che è uguale l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale più grande umanità. Contro il riformismo che contratta, ma che il potere non ci dà. Noi siamo la classe che avanza, che il comunismo costruirà. Uguaglianza, forza e fantasia, conoscenza e libertà, che ci fu negata dal potere, a tutti quanti apparterà. Questa voce sale dalla lotta e che fa, è l'internazionale più forte umanità. Questo pugno che è uguale l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale più grande umanità. Questa voce che sale dalla lotta e che fa, è l'internazionale più forte umanità. Questo pugno che è uguale l'uomo all'uomo farà, è l'internazionale più grande umanità.